messo questo rumore, può essere il trasformatore. Salvatore, un attimino che la regoliamo, la non toccare. Può essere il trasformatore stesso, sai, quello 220, 110 mi pare, che faccia quel, si porti dentro quel rumore di alternata, Gianfranco. Sì, a primo colpo sembrano 50 Hz d'alimentazione. Potrebbe tentare, perché a volte quelli vecchi andavano anche in fase su sul contenitore, non sul fascista. Dovrebbe praticamente la presa di corrente in modo da variare la fase. Se smette vuol dire che era un problema di fase, di rientro di qualche fase. Se no al limite è mettere la carcassa d'apparecchio a terra, con una piccola messa a terra, e probabilmente sparisce. Se poi dipende dal cattivo schermaggio, dalla cattiva schermatura del cavo, allora non troppo io di maniche. Bisogna ricontrollare le masse qua. Ho capito, se no può fare anche la prova anziché a 220 a 12 volti. Salvatore Sassari, vediamo allora questa radio. Abbiamo detto che ce l'hai a manetta, quindi tutto al massimo il trimmer. Inizia a girarlo un pelino, vediamo. Giralo, giralo, chiudilo, inizia a chiudere. Sono quello del... Allora, sto lavorando sul... Perché, ma sei in FM o in AM? Sono in AM, però... Sì, perché secondo me sta andando più bene. E questo in FM... Io ti ascolto in FM, non so voi, ma in FM va bene. In AM sì, completamente fuori. Allora devo girare questo. Prova a girarlo, facci sentire un pochino com'è la situazione. Ascolta, ti faccio sentire questo un attimo. Guarda con il microfono palmare se l'alternata la fa ancora. Leggera ma la fa, quello là invece se la porta più dentro. Cosa abbassi allora? Il trasformatore Massimiliano. Dovresti provare a collegarlo a 12 volte anziché a 220. Vabbè, adesso ascolta, se io al trasformatore al cavo di uscita le attacco un filo alla carcassa sua. Mi stava dicendo Gianfranco una cosa del genere, così è Gianfranco, lo senti Massimiliano? Sì, io lo sento fortissimo. Adesso è notevolmente migliorato, però ripeto, sicuramente se sembra 50 Hz d'alimentatore derivato dall'alimentazione. Dovrebbe mettere o la parata a massa, fanno una massa, oppure mettere un'alimentazione a 12 volt che è più, molto più filtrata. È positivo. Vabbè, adesso ho cambiato il microfono, adesso sto usando un Ruis come microfono. Cioè il microfono suo dalla radio, l'originale palmare. E anche questa, Massimiliano, ma quella è una bomba atomica. C'è questo rumore sotto l'alternata che lo copri quando moduli, si sente solo quando lasci la portante. Quindi non mi metto la portante perché sennò dico che sei tu. Tu mi occupai, già la muovo anche dalla chiave la portante, allora ecco non me la si compra il viso buio. Sarebbe ecco lui, c'è molto più forte del Galaxy, del Pluto, cioè, se no il tornado c'è, cioè, del tornado, ma molto molto più forte, già è forte quella lì, ancora il doppio, e secondo me se facciamo la comparazione tra il Tame più 3 e il Salenta esci molto più forte tu, vedrai. Però che se vuoi non tale copiesi a star radio allora. Alla grande, il Tame con lui se a me mi ha dato delle grandi soddisfazioni. Delle grandi soddisfazioni, ma guarda che va bene anche con Saletta, Massimiliano. Devi farti la prova, hai 5 minuti, ti fai prima un cavettino di massa e provi col cavettino di massa come ha detto Gianfranco. Diversamente, tanto c'hai anche l'alimentazione a 12, lo alimenti a 12 e vedi un po' come si comporta. Perché lo sai cosa mi succede? Quando io lo lascio attaccato alla corrente, questa roba qua, anche se c'è l'antenna attaccata e roba del genere, che tocco la carcassa di ferro, mi dà una piccola scossettina, una leggera scossa, capito? Beh, come ha detto Gianfranco, fai quel cavettino di massa, un cavettino piccolo. batteria, così? Provi, aspetta con me, provi. Massimiliano, vediamo se lo fa ancora. Se lo fa ancora può darsi anche che quel microfono è talmente forte che si porta magari il gruppo di alimentazione del microfono stesso va a interferire con l'alimentazione della radio e quindi tira fuori questo rumore. Perché il rumore è strano, sembra proprio un rumore di alternata, capito? È qualcosa che sta scaricando sul microfono. E allora si può fare dall'attacco del microfono, dall'attacco a quattro che hai, non che io l'ho fatto in qualche radio tempo fa, metti un pezzettino di filo dove c'è il cavallotto che chiude il connettore che va alla radio e te lo porti alla massa del microfono, a una vite del microfono, provi anche così, ma di quei filettini fini fini, Vabbè, adesso domani ci provo, prima provo a fare questo intervento all'interno, perché se riesco a farlo dall'interno è meglio, così fuori è tutto originale, capito? Massimiliano, all'interno devi farlo di bravura, ma la prova tecnica la puoi fare da fuori così, e poi se vedi che va bene te lo porti dentro e ti fai un lavorettino bello. Positivo, dai. Ok, quindi abbiamo constatato che questa radio va ancora bene, anche se ha 40 anni. Va bene, dai, rimango in ascolto, che fra un po' esco in BM, magari ci sentiamo da lì, dai. Vi lascio un attimino qua. Ci sentiamo, dai, un saluto circolare a tutti, io sono qua in ascolto. Oh, ma ci media, fammi la cortesia, che per entrare un po' tardi, che almeno è già chiuso sicuramente a quell'ora. Per quella cosa là dici che passo io, capito? Speriamo che ce la faccia tra domani, e se no direttamente lunedì ci passo, perché devo portarle anche il mio, che ti ho detto, a farle fare quelle connessioni a 4 di quel SEAS, quello grande, dai. Tanto lo vedo dopo, capito? Tanto anche domani dovrebbe essere aperto tutto il giorno, credo. Ok, là, non c'è problema. Bene, avvisalo tu perché io non ho avuto modo manco di, non solo di farlo con il telefono. Va bene, ti ringrazio e ci sentiamo dopo se coincide dalla macchina. Allora, Salvatore. Sì, ancora più complesso di prima, Salvatore, ancora più complesso. Ma lo stai chiudendo quel trimmerino o non l'hai ancora toccato? Saturno, un bel saturno. che esso adesso mi dà 2 watt. Ecco, adesso va bene. Adesso c'è chiave il radio. Quindi, però l'RF Power proprio non va più. Meno di questo non mi segna come potenza. Lascialo così, qualcosa è successo, perché scivi meglio la verità l'altro giorno, 7 watt, 10 watt, andavi benissimo, oggi non so cosa il diavolo è toccato, ma così va bene. Ho capito, secondo me oramai si sono sbilanciati tutti quanti i valori. Ma ti hai fatto un disegnino man mano che hai toccato i trimmer, oppure li hai toccati così a caso, giusto per capire, perché se tu tocchi il trimmer e mi abbassi la potenza, la modulazione reagisce bene. Se tu invece vai a aumentare la potenza, la modulazione se la mangia. Quindi sei sicuro che stai toccando la media frequenza giusta, o stai toccando qualche trimmer che praticamente dà la modulazione, quindi sulla LC, no? No, erano l'LC, l'MC consigliavano di aprirli tutti. In realtà adesso io sto cercando di rimetterli come erano all'origine. Vedi, la modulazione è già cambiata, hai toccato qualcosa di nuovo? Sono sceso con l'LC, li sto riportando perché ricordo come erano posizionati. Guarda, posizionatelo come era, non so, Vattolo, perché nel passo che hai fatto poco fa la modulazione è splendida. Se tu vai a toccarli, praticamente ti sfasa la modulazione, diventa satura, tutto compressa, capito? Esatto. Allora, se non ricordo male, è così esattamente la regolazione. Cioè, era così all'inizio la modulazione, ma io ti ho sentito sempre meglio di così, Quando io ti ho detto sei leggermente saturo, era proprio leggermente, adesso sei saturo del tutto. Ho capito, se ci stiamo arrivando. Cosa ha detto ancora? Regola, sei scendo ben male, ma molto molto male sto scendo. Ok, questa dovrebbe essere l'attacca giusta. No, assolutamente. Attacca sbagliata è quella. Scendi di fatto un pezzo, scendi di parecchio di fatto, poi ti fa la regolazione MC e LC. Ecco qua. Così come va? E ancora? Così dovrebbe essere la regolazione giusta. Così va bene. Allora, in questo momento ho solo, con l'RF Power, 5 watt. Se vuoi così, regolati l'MC e l'LC adesso. Così sei a posto, insomma. L'MC e l'LC, ho paura che... Cioè, l'unica cosa è aprirli del tutto a questo punto. Apri e basta, futti del tutto, apri. Allora, ho aperto l'MC in questo momento. Apri anche l'altro. Aperto del tutto anche l'LC. Va bene, lascialo così. Ma intanto non hai cambiato il segnale, Salvatore, va bene così. Dunque, così mi sta dando 5 watt quando modulo, 4 con la sola portante. Ah, va bene così, sei 9,25 qua. Adesso provo a mettere l'RF Power al massimo per vedere che cosa mi segna. E ti togli la modulazione. 6 watt sta segnando. Vatti, prova a parlare. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. E già manchi di modulazione. Ma ti sembra quindi? Non la conosco quella radio, se ho fatto sinceramente la qua c'è Antonello. Però per me avere un watt in più non serve a niente, lo rimetti a 5 e la modulazione è bella chiara, pulita. Dico un casino la verità, dico un casino con l'inco. Mi dici vado un po' d'altri, la verità. C'è la propria che Fabio, se ti ricordi tra, non so se ne dica cosa. Io non so, ma lui magari vuole recuperare qualche watt in più, però se recupera qualche watt in più va a distorgere la modulazione, che è peggio. Quindi devi lasciarlo a 5 watt. quello che dicevano i consigli era aprire l'MC e l'LC, perché comunque la modulazione avrebbe migliorato di tanto, ma mi sembra che in realtà non abbiamo modificato più di tanto la realtà. Non so, io ti ascoltavo molto molto più compresso, adesso c'è una modulazione, è molto più chiara. Vabbè, lascio così. Ma Alessio, ma l'FM modo invece che cosa serve allora? Per la modulazione FM, se tu lo regoli esci molto più alto del radio in FM. Basta, e allora non c'è nient'altro da toccare. In realtà allora non c'è nient'altro da toccare. Esatto, sì. Quindi l'FM modulo posso lasciare aperto del tutto? Lascia aperto del tutto, passa in FM, vediamo come esce, no? Adesso giro, eh? Eccomi qua, sono in FM. Vedi che cambia la modulazione FM, è totalmente diversa. Ma com'è? Forte? Sì. Quindi allora questo lo posso lasciare così. Va bene, torniamo in AM allora. Ehi, ok. Ok, grazie, scusate tutti gli altri amici della ruota. In FM esce molto molto meglio la vetta, perché l'apparecchio esce bene la vetta. È così, con gli apparecchi ho fatto così. Ho capito. E va bene. Dai, ci siamo, diciamo, dai. Dovremmo esserci. Fate un microfono amplificato di quelli da 40 euro, quello che è, sei a posto. Esci perfetto. Sai che io ricordo che quando giravo, ruotavo l'RF Power, effettivamente io la vedevo la scala in graduata aumentare proprio anche come termini di potenza. Adesso che ho toccato il trimmer, mi sa che qualche cosa si è saltata. E vabbè, quello che comunque sia, già va bene, se scendo come si deve adesso. A te, a lei invece come ti arrivo come segnale, me lo ricordi per favore? 2.10, sì, questo apparecchio, 2.5. Ok, va bene. Ok, hai cambiato qualcosa verso di te? Il segnale è rimasto invariato, la modulazione è bellissima soprattutto. Allora basta, metto due punti di saldatura e blocco tutto. Beh, sei molto più chiaro di prima, molto più rilassato. Gianfra, ci sei ancora, scusa, come lo senti adesso rispetto a prima soprattutto? No, adesso va bene, evidentemente era troppo spinto come LC, che forse non è potenza. Adesso va bene. A te Gianfra. Ui, ottimo per la truppa. Stasera sì, comincio a sentire la stanchezza, ragazzi, sono veramente stanco. Ho ancora tutto domani, tutto domenica, mamma mia. Mari non lavori? Lavoro, e perché festa è? Lavoro, domani io sono di turno, tutti siamo di turno. Ma si lavora, anche a ciò, vabbè, tutto uno. Faccio Abba, la chiamo io. Sì. Prima il sabato si lavorava sino alle 11, adesso si lavora sino all'una. Dalle 8 all'una, capito? Ma la fottitura è che domenica sono perdibile, quindi lavoro anche domenica. Per carità. Mette stress. Ma quando è che vai in ferie? A settembre, 8 agosto niente. Li ho fatti l'anno scorso l'agosto, andiamo tutti a turno di responsabili di zona. Capo, ho capito. Scusate, mi stanno squillando il cellulare, quel Rix un attimo. Bene, va bene. Siamo qua a Salvatore. Falchetto, dove rientrava? Caput. Zio Antonio Falche. Si intende se no. E quindi Gianfra, si è entusiasta di questo 570? No, io non l'avevo comprato il 950 della Yaesu. Ero indeciso se prendere le 590, poi mi è capitata l'occasione per è che ho preso comune, l'ho preso per quello, così evito di usare, perché in pratica l'avrò usato 10 volte più essere unica, non ho capito cosa c'è da fare, infatti comunque vabbè. E niente, ho messo da parte perché lo sto facendo per fatti dal 480. Quindi vediamo un po', adesso sembra che stia andando benissimo, dato il prezzo poi garantito 12 mesi, insomma meglio di così. Sempre oramai sto prendendo un po' tutto di seconda mano, a parte l'ultimo ricevitore del 2000, ma tra l'altro di seconda mano, perché tra l'altro è anche garantito, revisionato, allineato, quindi è meglio il nuovo per certi versi, e soprattutto poi ti viene a metà prezzo, il che non è di questi tempi abbastanza importante, perché questo all'epoca credo che costasse anche lui intorno ai 1200-1300, troveranno per 600-650, va bene. Insomma, noi qualità prezzo, io avevo preso 920, sempre della Yaesu, poi è uscito 950, qualità prezzo non lo sono portato a casa perché è una signora macchina, non si discute, è molto, molto bella esteticamente, molto grande, c'ha tante cose, c'ha addirittura incorporato il coso dell'antenna, la puntazione antenna elettronica, c'ha tutto la parte elettronica della puntazione del correttore, c'ha mille cose, un quattro conversioni, doppio VFO, e alla grande, alla grande, ci assomiglia moltissimo al coso, quello che si chiama, ci arrivo, tra l'altro che hanno fatto nel 2000 mi pare, non ricordo. Va bene, signori, io rimango qua in QRX, se vi fa piacere sono qua anche dopo. Inizio a salutare Antonello, Salvatore, ciao, un abbraccio, ciao Gianfra, se ti fai sentire dopo ci facciamo le chiacchiere, Fabrizio se ci sei ancora, non mi ricordo più, Salvatore Baragricola, ciao, buonasera, buon lavoro, niente, insomma, ritiratevi tutti salutati, nel caso Antonio Pomponio, sono quanto, vado a mangiare un boccone, poi intanto dovrebbe entrare anche il Falchetto, gli altri, e facciamo due chiacchierette. Se è possibile, se non è possibile, prego la nanna. Buonasera a tutti, a dopo signori belli. Grazie Cla. Grazie, buona carica. Noi quando ci sentiamo più tardi molto volentieri. Alessio. Si è caduto un attimo a prendersi la birra dal frigo. Sì, Salvatore, se ti fa piacere sono qua. Ieri abbiamo fatto un grande QSO fino alle 11:30, poi siamo un po' tutti crollati. Non ho sentito Antonio oggi, Grover, forse era fuori, così mi diceva ieri notte. Va bene, dai, un abbraccio a tutti, buona cena, se coincide a dopo, altrimenti ritenetevi tutti salutati e buon fine settimana. Sì, grazie. Buona cena allora. Lo sto guardando l'apparecchio, c'è anche un altro in vendita, 849 euro. È un bezzione, è enorme. Troppi tasti per i miei gusti, non si capisce la mazza. Vabbè, riprendi, cosa? C'è un coglione, sono dimenticato il nome. Com'è? Sebastiano. Salvatore, non ti preoccupare, non ti preoccupare, è facile dimenticare. Poi forse casomai rimangono più impressi i nominativi o insomma i vari nick. voi? Che posso giocare mai? Chi è? Giuseppe forse, che ieri mi stava dicendo com'è che mi chiamavo nel quando modulavo una ventina d'anni fa. Ho faticato a ricordarmi. Allora, infatti io non parlo perché quando iniziano a lanciarmi i nominativi non me ne ricordo neanche uno, quindi preferisco non dirli. Va registrata avanti con la buonasera, Salvatore da questa parte con Gianfranco. Claudio in QRX, Salvatore Baragricola sta lavorando e ci sta ascoltando, forse c'è anche in ascolto Alessio. Di nuovo buonasera a tutti quanti, da questa parte Leoncino. Uè, ciao Leoncino, finiti i giri? Ciao. A Cittamercato. Oh, in farmacia l'ultimo viaggio. Ti ricordi che mi avevi detto che una andata alla città mercato ogni tanto faceva bene. Cappa, che non ho copiato l'altro amico che c'è in ruota. Ehi Gianfranco, avanti Gianfranco. Sì, saluto. Che infatti io mi sono dovuto allontanare perché stavo staccando l'apparecchiatura che era accesa, stava caricando le batterie, quindi niente, riprendi tu Sebastiano, c'era anche Alessio se non sbaglio. Sì, ma non abbiamo capito se è andato a farsi una birra o a scaricare un camion di birra. No, non c'è, evidentemente, forse è uscito. Giuseppe, ma hai già cenato? Ciao, fretta adesso. Noi stiamo aspettando la pizza che ce la portino a casa. Allora, buona pizza a tutti quanti. Eia, Claudio ha appena chiuso e sta allo stesso facendo carica anche lui e tra un po' riprenderà sempre qui su questo canale. Ciao, ok. C'era Gianfranco l'amico, no? Sì, Gianfranco, il fotografo, con una tosse micidiale e con mal di gola, sembra un quattro. E dove sei, Gianfranco? Scusa se te lo chiedo. Zona Budi. Sì, ma lo dai un controllo, come ti sto uscendo, Gianfranco, dalla tua zona? 9, 95 R5. Ok, K, grazie. Niente. Avanti Salvatore. Cappa. Tu Gianfra, che prima stavi dicendo che avevi un nominativo che poi vi siete messi a ridere e sai che non ho capito qual era. Quello qui, Albatros. Il mio nominativo è rimasto sempre quello. Ce n'è anche uno ancora più antico, ma quello praticamente ormai non lo conosce più nessuno perché insomma sono tantissimi anni fa, io ho cominciato quando ce l'avevo meno di 16 anni, quindi si può immaginare. Tutto lì. Io stavo adesso ricordando quando avevo io, dunque io ero alle medie, e nel 76 mi avevano regalato, 77, forse nel 77, mio padre ci aveva regalato in casa una di quelle coppiette di walkie-talkie monocanale che ascoltavano contemporaneamente tutti i canali, però in realtà ne trasmettevano solo in uno. Mi è venuto in mente adesso quel periodo là, come stavi parlando. Allora c'era tantissima gente, era un altro, anche adesso si sta un po' riprendendo, meno male, speriamo che riprendano, per le antenne che si vedono in effetti se ne sentono poco, perché qua la troce ad esempio è zeppo di antenne CB, però se ne sentono pochi. Sì. Giuseppe, tu che giri sicuramente molto più di me, già avrei notato che anche tu che ci sono ancora un bel po' di antenne montate sui tetti, eh? Ah, sì che ci sono. Secondo te è gente che se l'è dimenticato, che l'ha lasciata per mandronia, non la toglie, o è possibile che siano persone che riprendono a trasmettere? diciamo che gente che di vecchi CB che proprio dell'apparato gliele può fregare a meno, ho capito, sabato, però la lasciano lì attaccata al tetto. Una volta che piante sul tetto sarà molto difficile che riesca a buttarla giù, capito? Io torno subito e mi sto ascoltando. Oui, ciao qua. Sì, sì, sì. E Claudio, tu dall'alto sicuramente già ne vedi di più di antenne di quanto ne vediamo noi, eh? E c'è solo 5 qua carguati di gente che parlava prima tra l'altro con me. Io sono sempre qua con le antenne, ma io non ho più sentito nessuno, proprio da una decina di anni a questa parte, ma anche Antonello già lo sa. Va bene, fatemi terminare di mangiare, dai, vi sto ascoltando comunque, sono qua. Ciao Giuseppe, buonasera, ben entrato. Eia, anche a te qua, buona carica. Sono in Guernix, mangiando e ascoltando, ascoltando e mangiando. E piano, piano, ciò ti porto a casa tua il sindaco di Broaghe. Oh, no, no, quello non entra neanche dalla porta di quanto è grande, guarda. Ma in Viale Mameli tempo fa c'era scendendo che si vedeva enorme, adesso è rimasto solo un traliccio, avrà almeno 7 metri, 8 metri di traliccio saranno rimasti, c'era un'enorme antenna direttiva poco prima di arrivare al conservatorio. Ma possibile che fosse di qualche radioamatore che oramai è andato via? L'antenna è abbassata, il segno di lutto. Si è rimasto il traliccio, il master è tutto a terra, l'antenna è in terra, come era su l'ha portata giù, non c'è più, ci ha lasciato circa un anno fa Gianni Guffo Triste, ex CB, grandissimo radioamatore, non grande, grandissimo per conto mio. Cappa, quindi già avevo visto bene, era una direttiva enorme, è vero? Forse una riscatta o una morracca, adesso non mi ricordo esattamente. Grande, sì, grande, grande, grande. Grande radioamatore, è venuto a mancare, credo, neanche un anno fa, o forse un anno fa. E si chiamava come CB Gianni Guffo Triste. Perché ero un attivo e li avevo messo noi tanti, tanti anni fa, io ancora ragazzino, perché aveva questo baffo molto girato e quindi lo faceva sempre triste, non si vedeva mai il sorriso, capito? Dai, fatemi finire di mangiare che mia moglie è troppo felice, sono qua che vi ascolto, riprendo tra 5 minuti, fai girare tu Salvatore. Cappa, fate con comodo questo baracchino anche quando si cena. E poi hanno ragione le mogli. Oh Giuseppe, dimmi Sabato, tu che hai già cenato, dici qualcosa. Vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Dica, dica, dica. Che più male di me non c'è nessuno. Siamo senza tabacco e dunque stiamo aspettando che la cosa si sblocchi, però niente positiva. Accidenti, questo non lo sapevo. Mi dispiace, mamma mia. Guarda, macello sabato, macello perché sai che io scendevo a Ghero e facevo il custode notturno lì a Lido e dunque, però mi ha dimostrato che quest'anno la gente a luglio non c'è nessuno a Lido, proprio zero, e dunque io ho terminato all'11 di mezzo di questo mese, poi sono bloccato, mi ha bloccato, capito? Per carità, ma quindi tu sei comunque della stessa società che stava manifestando in Piazza d'Italia, che aveva messo gli striscioni sotto la provincia? No, negativo, negativo, no, quella è una cosa a parte, quella è del partito di Gabino Sale, quello non c'entra niente lì, quello è un altro partito, però io so, lavoravo con un coso privato, capito? Ah, K, perché mi sembra di aver letto vigilanza o vigilanza sarda, insomma, non ricordo qualcosa, niente, ho fatto l'abbinamento, erroneamente, ho fatto l'abbinamento. Bella tristezza, io ho dei colleghi che lavorano in altri enti paralleli al nostro, giù nel Basso Suicis, dove costantemente si vedono recapitare il loro stipendio regolarmente con tre mesi e mezzo di ritardo. È allucinante. È allucinante, sì, perché non ci sono soldi, Sabatone. Il governo ormai, mettiamocelo in testa, il governo ci ha rovinato la salute e tutto quanto, capito? Ci ha rovinato la vita. Questi elementi qua che ci sono nel governo si stanno mangiando tutto. Punto, è quello il discorso. Carità. Sono contenti quelli dell'AMS, la società del monopolio dello Stato che si occupa di disciplinare i giochi, sono contentissimi perché hanno avuto addirittura un trend in aumento nel gettito derivato dai giochi di oltre 220 milioni di euro, e questa la dice lunga sulla disperazione della gente che si sta gettando sul gioco per cercare di riuscire a tamponare gli introiti che oramai non hanno più regolarmente. Scappa. E sono quelli proprio, cazzo, che sono quelli delle Adnaide, come la vuoi chiamare, tutto quanto, sono quelli che stanno rovinando la gente, capito Salvatore? Stanno rovinando la gente con questi videopoker e compagnia bella, hai capito? Assolutamente. Poi per carità, cioè che macchinette che tecnicamente comunque sono costruite, concepite per restituire al massimo il 60% del giocato, e sono veramente dei cancri legalizzati. Sì, perché ormai lo Stato, il discorso è questo, lo Stato non sa dove più mangiare, allora mangialo direttamente anche dalle macchinette, capito? Perché hai posto la legge che le macchinette, se le vuoi, devi fare come dicono loro, collegate direttamente già dallo Stato, capito? Perché c'è solo il ricordo di vincita, è quella là, è stabilita già che è quella, capito? Cosa ti posso dire? Ne metti 500 euro, ne vinci 200, capito? E loro ci stanno guadagnando già il doppio sul doppio, capito? Sì, ci sono proprio le percentuali, sono calcolate. Dovrebbero ritornare il massimo il 60% in montepremi, in vincite. Poi di quel 40 c'è la quota del gestore delle macchinette stesse, la quota che si prende il gestore del locale dove le macchinette sono esposte, e comunque la quota più grande che la fa la padrona è quella che si prende lo Stato. Allucinante, veramente allucinante. Scusatemi che sono arrivate le pizze, ci sentiamo, faccio una carica anche io e ci sentiamo tra un po'. Abbiamo lasciato colpevolmente in parcheggio a Gianfranco. No, negativo. Io mi sono dovuto allontanare perché stavo caricando le batterie e le ho dovute attaccare, quindi sono capitato giusto per sentire il tuo passaggio. Ne approfitto anche io per salutarvi perché me ne vado a guardare un po' di televisione, tanto ho capito, questo mal di gola non riuscire neanche a parlare. Va bene, buon proseguimento, buona cena, per chi sta andando a cena. Ci sentiamo. Ciao Giuseppe, ciao Salvatore. Ciao, buona carica, quando la fai è buono tutto, dai, ce la risentiamo tutta la prossima. Vai, sabato. Ok, grazie Gianfra, fatti passare la tosse, perché ti sento veramente impegnato, con la gola impegnata. Giuseppe, mi devi scusare, ti lascio un attimo nella speranza che Claudio tra poco, finita la sua bottiglia di vino, si ricongiunga in frequenza. Adesso starà ridendo. Ok, ci sentiamo più tardi allora. Ciao sabato, buona carica, buon tutto, salute e buone ali. Okay, grazie di nuovo, a più tardi. Ciao. Progetto. Chi è rimasto qua? Juan, numero uno. Allora Giuseppe, che si dice? Ma che antenna televisione adesso? Là, quella della canna pesca, sono a casa. Siduro, porca miseria, non è la bruna Monica. mangio la cioccolata con la panna, io penso che non avevo neanche il bar, il bagno, anche se è vicino, perché farei un buco nella sedia. A cusci. Bravo, bravo, ci è arrivato. Cappa. Beh, dovevi avere il bagno vicino, se no via male. I pantaloni sono cari, invece di avere la cioccolata sotto la notte. Vai, sai, d'inverno, metà serata, c'è chi prende il tè, chi prende queste cosette, una bella tazza di cioccolata calda fa sempre bene, ma che cura, uiuiui. Vabbè, si pigliava la cioccolata, in inverno si pigliava la cioccolata calda in inverno, adesso non lo so chi la prende. Quando è? E anche sarà una due settimane fa a Città Mercato, a Torino. Ho visto un congresso della Multis, da poco, al Palazzo della Provincia. Oh, cazzo, quello ormai non ha più voglia di entrare, boh. Devo entrare, Giuseppe, non devo entrare. Non era mai appassionato lui di verde, veramente. Entrava a rompere le palle e basta. Cazzo, guarda, quelli erano altri tempi, cra, quelli erano altri tempi, vero? Quelli erano altri tempi, sì. Non ci siamo conosciuti che tu avevi meno mucco di radina ancora, Giuseppe. Non ce ne sono più cibi di una volta, oia, per carità, per carità. Comunque, già vorrà, se vogliono entrare, già entrano i vecchi cibi, se vogliono entrare, se no, se ne stiano dove sono, ecco dove ti dica. E infatti, stessa cosa ti dico, io vado avanti per la mia strada, gli altri vanno avanti per la loro, non c'è problema. Io trasmetto, c'è sempre gente del mio canale, chissà perché, vuol dire che ancora qualcosa possiamo contare. Sono anch'io, arrivo tra 5 minuti, buonasera. Mi piace molto la situazione del baracchino, dicemelo pure domenica, lo vediamo, perché l'avevo detto che mi aveva regalato questo pescatore, a me no, questo baracchino, però non c'è né nome né niente. Però non so cosa lo possa assomigliare questa radio, boh, non ho capito. E io adesso domenica, quando lo smonto, lo porto giù da Gigi, lo vede. Ma detto, secondo me te lo sequestro. Ehi, domenica ci sono anch'io da Gigi, dobbiamo fare come cosa. Ho provato a portarsi la sinistra, ma si vediamo con Sabella e Ruiz, e su Maria Gare. Una saetta, troppo forte col microfono. Oh, io l'ho provato una volta sull'HB23, usciva molto forte, ma con quel Ruiz che c'è lui esce ancora più forte. Appa, cazzo, ma come l'ho sentito cazzo, pensavo che era sotto casa, pensavo fosse sotto casa, e gli ho detto, a te guardare sotto casa, ho una cazzo a casa, sono con San Giovanni io, e ho detto, la bagaccia tua, ho detto, Massimiliano. È molto forte, sì. Molto bene, sono contento che sia un abbinamento giusto, ma io già non mi sbaglio, con il tuffo rimano bene con quella radio lì, con il Galaxy, col Tornado, con il 3006, 3004, 3008, va molto bene, Saverta, ottimo microfono veramente. Ma guarda, te attendi e te lo grattare tu, e se no ce lo devi, non me l'ha più tenuto a me. Vabbè, già, già è buono. Non ho problemi, ho una cosa col cuore, quindi è lì e lo usa lui. Però per eliminare quel rumorino che mi ho sentito, adesso vediamo se fa quella modifichetta, me lo fa sentire a 12, magari sparisce, adesso vediamo. Anche questa sera lo devo uscire, ma che non l'ho ancora sentito. Massimiliano Bulldozer, ancora devo essere magnente, tanto che ammagna a Bobo. Ciao Antonello, guarda cura di oggi, mangia pure, già siamo qua, non ti preoccupare. E a me mi preparo un caffè e sto arrivando. Andrà bene, poi mi dici a che punto sei con la manovra. Io ho preparato tutto, devo solamente trovare un punto dove collegarlo e i pianti che mi hai dato, capito? Se no stavo pensando di beccare qualche tubo in pratica, quello per far passare i cavi elettrici esternamente, no? Che si usano per gli impianti elettrici, se aspettano che mio fratello me lo porti, così prova a direzionarmi in un punto, però non c'ho un punto giusto dove attaccare i cavi, no? Mi tocca tassellare nel muro, ma adesso questo è un casotto e viene anche male, capito? Adesso vedo un po' di arrangiarmi con un tubo in plastica per legarglielo lì, capito? Tenerlo lineare. E va bene anche così. Ricordati di mettere gli isolatori se lo metti di lungo. Sì, gli isolatori, quelli che mi hai dato tu. Eia. Vabbè, ma quando io stendo il cavo, glielo metto in un tubo di plastica, non credo che ce ne siano bisogno di quelli. lo metti in orizzontale, riesci dagli isolatori, mettili, ciò ti fa dietro di ABF. Ah, perfetto, va bene, speriamo che arrivi, là, faccio un caffettino e ci sediamo dopo. Tu non vuoi un caffè, sì? Questo primo caffè è un automobile, è l'unica cosa che non ho mai capito perché. Posso prendere la mattina io e poi il primo pomeriggio, le due, le tre. Se lo prendo dopo cena non dormo più. Vabbè, là, ti faccio una camomilla, vai, quando è pronta ti chiamo. Dai, questo andrà bene. E gli assentiamo dopo, vai. Buonasera. Oh, Antonello, già andrò subito, voglio dirci, Antonello. Cappa. Qui hai capito, Claudio, com'è la questione? E adesso me, o domani o dopo, se mi telefona, la prima cosa le dico, ascolti, mi prepari subito che sto scendendo e me ne sto ritirando subito. E poi, se vuole che continui a lavorare, mi paghi a settimana, e al mese non mi conviene più, poi basta, almeno mi ritiro quei pochi, però almeno sono più sicuro. Positivo. Beh, lì dovevi controllare prima, dire guarda, siccome io ho necessità, il viaggio eccetera, me li dai settimanalmente e così non avevi problemi, capito? O Giuseppe, li facevi dare settimanalmente del rapporto. Vabbè, e poi al prossimo anno dovrei essere dove c'era Carmelo, capito? Ah, non capito, capito. Ma c'è ancora lì, c'è ancora lui lì, o no? Sì, è ancora lì, fino a ottobre dovrebbe essere ancora lì. Poi parte a Milano perché si è, ha conosciuto questa e hanno intenzione serie, dunque ci vuole trasferire a Milano, capito? Ah, come va a intenzione serie, non è mai avuto, comunque, lo conosco da tantissimi anni. Vabbè, da, diciamo, già è in condizioni che lasciamo perdere, dai. Se ha trovato la donna giusta, è meglio per lui, è buono, almeno si sistemano tutte e due, hanno la stessa altezza, sono lo stesso peso, dunque vanno troppo d'accordo. Se sono della stessa pezza, stai pur certo che già non ho d'accordo, ma se appena appena lo contraddisce, liscio, uia uia. E vabbè, comunque, io ho visto anche l'apparato che c'ha lui in macchina, per carità, non ne vale manco 100 lire per quell'apparato che c'ha, e tu me lo vendi. Dice, non lo so, l'ho già promesso, qua, là, ho detto fare una cosa, dillo, va, magna dillo. A me cosa ti ha detto lui, perché mi ha detto lo dava? Cosa ha detto, che te lo dava come radio? No, mi ha detto, dice che gli serviva a lui, ha detto, me lo vendi? Ha detto, no, io non ne ho altri, se no te l'avrei venduto. Ha detto, io te ne do un altro, cazzo, un 40 canali, quello che uso io. Facciamo cambio e cambio e ti aggiungo qualcosa. Ormai sono affezionato qua là, lui dice che può salire anche sui 45, questo non lo so, e ha detto che se lo teneva, ha detto vabbè cazzo, poi gliene distaccano i pomeri, capito, gliene esce la mascherina, cazzo, te la posso aprire un bidone. Vai, se non la divizia la salire a stare, usa la temperatura. Sarei a Matteo un grabo, guardino a tutti. Per vecchia mi interrompo questo che c'ho, non hai capito, sta uscendo bene, sta funzionando bene, c'è un microfono che l'ho adattato, cazzo sta uscendo bene, cazzo mi tengo questo, non ho capito. Si conferma. Si conferma. Attenzione, vicepresidente di Proaghe, CC, Alessio, Barracuda. Quello sta prendendo caffè, ci entra subito. Alessio, dove? Come va lì? Alessio, Pomponia? Mi. Alessio? E mentre fa me faccia in culo, io, spostati la canale, io. Chi è? Ce l'hai. Buonasera, ben sentiti e ben ascoltati. Cosa con chi ce l'hai? Leonci, calmati, calmati. Che cazzo, mi fai questa voce del cazzo, Romantù? Scusa, Così, sempre così l'hai sentito? No, non l'ho sentito così, però è già una voce che metteva, e Claudio mi ha già capito chi era, che metteva le portanti e dunque, non volevo, vabbè dai, lasciamo perdere, dai. Allora chiedo scusa, chiedo venia e riparto con la mia voce. Ben sentiti e ben ascoltati, ben sentito e ben ascoltato Leoncino e Claudio Sparviero se c'è. Ciao Antonio Gro, poco fa ti ho nominato, ti ho sentito tutto il giorno, lo vedi, cattavissi. Sto costruendo un'antenna da regalare a Leoncino. Bella, hai visto Leoncino, poi ci non ti pensa nessuno. Vabbè, certo, mi fa questa voce così da casa, da come lo puoi, che c'era, c'è tutto il studio, che c'era quella voce che faceva così ai primi anni, ti ricordi? E diglielo in faccia, vedi, la faccia della voce da vecchione. Dammi un bacio, dai, ti sei pentito, dai un bacio. Casa sua è poi non ha più trasmesso. No, dopo che abbiamo fatto quella questione là. Che gli avete fatto? Sentimi un attimo, facciamo la faccia, dammi un bacio. E vabbè. Fatto a pace, chi era? Pulivro ci viso, anche Luca c'è. Oh, ero io, ti stavo mandando dei baci, avanti. Croscio! Luca glielo sapete sì, è Croscio, non lo sapete. Ah. Lo sapete che Luca era Croscio? Luca. Buonasera a tutti, ciao Cla, ciao tu, ciao Giuseppe, ciao Marta. Nominato è uscito dalla tana. Ciao Lucchetria. Ciao Lucchetria. Ciao Lucchetria, Luca di Montezemolo. Buonasera. Grazie di Lucchetta, Luca di Montezemolo, si va bene. Ah, lui va bene, così non mi offendo. A me è va bene Lucchetria, io ho sempre chiamato Lucchetriello. Mica c'è Valeria Marini ti sta chiamando tu. Che la fai? Valeria Marini ha detto. Allora qua. Sì. Attenta, matta travi, cambio. Non sei tocca, su quel verde. Non sto parlando. Salvatore. Sì, tocca il giratore. E qualche buco ci ha parato. A lui è il trattore. Niente lui, niente, tutto ok, è tutto a posto, siamo qua a fare due chiacchiere, anche ieri, dimmi poi Anto se c'hai aggiornamenti, oggi mi ha contattato Palmerio, ha detto di contattarla più presto, vediamo, ha detto di controllare bene quel sito e le mail, e poi si vedrà. È venuto Antonello a trovarmi stasera, Antonello Barracui, è un gusto caffè. E come ho fatto di ideare? Buonasera. Ora sto costruendo un'antenna, una cubica. Ti volevo chiamare Barracu, però è un po' tribula la situazione perché bisogna fargli una struttura in tubi, in coso, in plastica. E dopodiché mettergli il dipolo e il riflettente a una distanza molto ravvicinata e comunque si piega un po' la struttura, capito? E stavo pensando, adesso mi è venuta un'altra idea che cerco di realizzare domani, comunque buonasera a tutti. Niente, così tanto scopo informativo, scusando una parola, perché la dico adesso perché se sono un parola a casa di Sparviero, no? Luca Schiappi mi può prendere. San Bagassa, cosa che ha in bombe, è una cosa impressionante. Non ho capito niente, comunque va bene. Ah, un'altra cosa, Leoncino, vieniti a prendere l'antenna che è pronta. Schiappa, e qua, dimmi quando. Di questi giorni, quando sei con comodo, così vedi, ti tratto bene e ti faccio sentire ancora più in colpa. La madre te ne scende, dai. E allora ti ci mando a salutare il sindaco di Ploaghe. Va bene, va bene così. Sì, ultimamente bene, ma dovete dare atto per quello che Antonio sta sempre costruendo antenne, ma non è in crescendo nulla, si sente di imbagliare. Problema, non c'è problema. E che appena ha costruito una già ne richiamo, di una che sta facendo a te. Fortunatamente Antonello se la sta costruendo da solo. Abbiamo dato un brevetto e sta brevettando antenne, fa un po' inizia a fare di puli, a informare di puli al nastro. Ah. Cos'è che gli hai detto Antonio Grotte, che non ti ha capito Antonio? Io devo pensare perché prende il sardo, diciamo, da più tempo la situazione, dico in italiano. Io sono andato a casa di torre di controllo, no? E sono stato. Ma niente, mi sono fatto gli occhi, non sapevo neanche dove girarmi, la verità. Secondo me, con la scusa che sono a casa e mi può prendere a schiaffi, io dico adesso, da lontano, sa bagassa rua, conato, sa cosa chiasa in domo tua. Non ho capito, la tua cosa che non ti ha capito anche me. Traponato via, sono anni, anni, anni, e sottolineo anni di grandi sacrifici. Anche l'ultima che hai visto, la più grande, la 950, quella, guarda. Ho fatto tante di quelle cose straordinarie per comprarmi quella radio che tu non hai idea. Antonio, tutto il resto sono solo anni di sacrifici. Non c'è niente da speculare a nessuno, niente da invidiare a nessuno. Ci hai visto come è organizzato, la stanza mia, tutto mio. E nessuno ti rompe le palle, abbascia, scruda già, quando ero via Pascoli, e spegni, abbascia, metti le cuffie e uscite, ma è tutti a un fianco. Se vuoi fare un altro sacrificio, vendimi il 27-25. Guarda, te l'ho tirato volentieri, ma non senza nessun problema. Ma ti riconti, io quella radio l'ho comprata esclusivamente per la macchina, solo esclusivamente per la macchina. E quando viaggiavo che usavo quella macchina, la Peugeot Van, autocarro, c'avevo quello lì fisso, fronte estraibile, umidità nascosta, tutti i cavi passati bene, eccetera. E adesso mi hanno dato la macchina nuova e purtroppo non mi hanno concesso di metterla perché non posso bucarla quella, quella era la vecchia nuova, quindi ma lascio passare, non proprio la buco. Lo sono portato a casa e ce l'ho collegato a casa. A proposito, ora sono riuscito a uscire dalle memorie e quindi io la frequento a quella che ci servirà per fare prove, l'ho già impostata. E lo sto usando tanto, se non te l'ho regalato volentieri io me ne avrei comprato un altro, non ci sono problemi. Capito? Però lo sto usando e non so manco che radio prendere. Che radio prendere? Da quella superiore a questa, o meglio, l'hanno tolto dalla circolazione perché ha avuto, come tutte le cose, che un'ottima riuscita. E adesso è uscita la nuova, che non so che cosa abbia in più, può essere collegata al computer, tutta una serie di altre cose, e quella non si trova più. Comunque, se vuoi fare una prova, se vuoi, sono sul canale 1, fra l'altro vi devo lasciare perché ho degli amici a casa, quindi sono in QRX, dai. E ci sentiamo dopo. Sono sul canale 1 se vuoi fare una prova. Hai sentito? Anch'io ci sono, non c'è problema. Anto, ti do un altro input, se la ICOM quella non lo fa più, quella non fa una puntata perché è nuovissimo, uscito l'anno scorso, non capito perché, ed è molto bello tecnicamente, se lo vedi figura. L'hai visto Antonio? Non te l'ho acceso Antonio? No, forse te l'ho acceso Antonio, quello verde che c'è il frontalino verde in alto sopra il 440. È molto bella praticamente, però se vuoi puoi andare a vederti il 7008 della IAESU, ok? È l'FT7008 veicolare lo stesso, dual band però, dual band, no bibanda, non è dual band, è bibanda quello. Ed è molto bello, il prezzo lo stesso intorno ai 220-230 euro. Intanto ci dobbiamo vedere al limite domani o dopo, mi dici un attimino la sigla. QRX per me, sono su quel canale un attimo se vuoi fare la prova. Eia, d'accordo. Avanti Luca o Antonello, che prendete? Eia niente, va bene. Poi nel caso per Grotte, questo ti deve chiamare per domani sabato. Partito, adesso glielo dico sul canale 1, va. Valeria Marini! E chi è Valeria Marini? sei tu? Io so chi sono io, ma tu chi sei? Dove sa fare troppo? Chi? Sa fare troppo! Ciao, no, non ti colpio male, ma dove ti trovi? Io, giocando sto adesso! Dove? Sto giocando! A noi! Ehi, dimmi, anche ti sento basso basso, buonasera! Mi senti basso? Sì, in mezzo al QRM! Ha detto che quello è Salvatore Parra Agricola, con il trattore che sta arando ottava e cambio. Ehi, buonasera. E anche non ti fermi mai tu, sempre, sempre a lavoro alla fine, sempre a quest'ora ti metti a lavorare. Ieri ho finito le 10 minuti. E oggi già ce la finisci. Ehi, se tanto me ne voglio io, dopo già ce l'ho mai senza toccare. Ecco, a riposo solamente sa, domenica alla fine, dai. E cosa ci vuoi fare? Senza lavoro si sta male, e stando a casa si sta peggio. E alla fine sai cosa scegliere. Antone, ma che tu c'hai il canale 1? Il canale 1, sì, della linea M. Oh, canale 1 del PD. No, no, io c'ho M, FM e basta, non c'ho altro. No, non c'ho più. Ok, abbiamo fatto una prova col portatile. Da qua mi sentivo altro. Va bene. È tutto acceso, Anto, se ci sei. Non ti intendo, non ti intendo. Che io c'ho il canarino, signor Clark. Ma a me il canarino mi è morto, però c'ho il pisello. Il doppio è per l'onda intera, il doppio ancora è 275. 70 a destra, 1,70, 1,70 a sinistra alla fine. Sempre il doppio di 1, ma scusami, sempre il doppio di 1,73. Esatto. Allora, mette un 5,80. Alla fine dovrebbe diventare come l'antenna di, del signor Pomponio. Poi quello li puoi fare, decidere tu. Decidere tu, sia un 4 onde, 5 tappe, un'onda intera, vabbè, un'onda intera è come a lua. Quindi conviene a metterla a filare normale e fare la V invertita. Ma un 4 onde la puoi già mettere dentro un tubo in PVC, come ti ho detto, ben messo e fatto uscire due polarità, da una parte e dall'altra. Il centrale è sempre fuori, il centrale è sempre fuori, senza invertire la polarità. Negativo con positivo, che praticamente sono il polo caldo e il polo freddo, quindi gli dai una posizione e lui irradia la posizione che tu lo metti. Oppure, come hai detto tu, sempre messo nel tubo esternamente con i due isolatori finali e lo metti in un palo fisso e lo fai girare, praticamente un dipolo rotativo. E direttamente, sì. Sto pensando a questo, vedo un po' cosa, da come scegliere per la posizione in cui sono, lo spazio che ho anche giustamente, da cercare di trovare, di studiare la cosa migliore alla fine, dai, comunque è già abbastanza divertente come cosa, non ho imparato, poi qualcuno quando me la chiede posso tramandare quello che tu mi hai insegnato, vedi cosa servono i vecchi. Io ne abbiamo fatto di modifiche per compiti il filo. No, di quello veramente che è un altro assemblo sono rimasto entusiasta perché, minchia, arriva 9,5 da produttore, molto molto forte. Praticamente è un quarto d'onda, guarda quello che hai fatto tu. Quelle misure che ti ho dato, guarda quello, capito? Non cambia assolutamente niente. Vedi, stavamo bene, intanto la misura l'hai fatta più lunga, però al momento in cui stai chiudendo gli isolatori le dai 1,73 fisso e dovrebbe risuonare da 26 a 28 più o meno, 26-27% insomma. Perfetto, va benissimo, 63 perfetti e poi inizio a sistemare con la situazione, già va bene. Dai, comunque va tutto, tra un apparato e l'altro alla fine quelle che vendono in giro, perché ce ne sono tanti apparati, anche semplici, tra virgolette come Midland, però alla fine, secondo me arrivato a un certo punto sono belli tutti, uno alla fine se lo sceglie per l'estetica e poi se si mette un microfono amplificato hai sempre diciamo una bella stazione, dai, alla fine è più un fatto estetico un apparato che funzionale, o sbaglio? Non credo. Il funzionamento è molto importante, hai visto Massimiliano che ci ha detto una radio di 40 anni fa, però quella è una signora radio, Royce, e come esce bene, basta un abbinamento microfonico che si adama, capito? Vai alla grande, non c'è un problema, hai visto quel MP3 con quella paglietta che avevi 23, quello è un gioiellino, ma non vuoi fare questione locale e infatti ne ha, hai visto? E lui è insomma un po' più giù di me, lì c'è un legnalettino attaccato, la radio da 4 watt non disturba la modulazione, tutto abbinato, è truba che tanto. Quello sicuramente c'è a casa un vecchio apparato che ho trovato gettato nella discarica Valghero, ed è un Sider Bander 2, non so se ce l'hai presente, un 23 canali che c'ha M, USB e LSD. Hai visto quel base, nuovo, quello c'ha più di 30 anni, c'ha nuovo, hai visto, tutta scala meccanica, col bellissimo, molto bella quella radio, ma adesso me ne devo portare un'altra, proprio stasera mi ha chiamato una persona, me ne devo portare un'altra, lo stesso vecchio così, funzionante, da verniciare, la porto al volo, la faccio sabbiare prima tutta e poi la faccio verniciare. E così ne abbiamo un'altra, perché quella non ce l'ho, tutti li ho di persona che marca è. Avanti Leocino, facci sognare. Giro. Rimica. Attenzione Giuseppe Leoncino. Dimmi Claudio. Aiù, facci sognare. Ma nel cucinare stavo prendendo la vaschetta del gelato. Ah, dai, ci disfiate tutti a mangiare gelato. Invece vado a prendermi uno stecchino, però siccome mi sono dimenticato di comprarlo, adesso prendo il coltello e taglio un pezzettino di porta. Riprendi, Antonio. Senti, Bube, è stato prima la parte intelligente di rosicarti la casa. Beh, Antonio, quando si può... ma l'anima... E gli scorticare la porta per pulirti i denti, mi vieni a casa e te lo prendi un pacco, ne ho due a casa di stecchini. Beh, ogni tanto ci vuole un po' di gelatino, vero Antonè? Lo sai cos'è, quando arriva una certa età incomincia già a sclerare, dunque beh, è normale, no, che sclerano così. E niente, ma tu per la situazione della tua antenna ancora non hai risolto? No, negativo. Vabbè, vedi che ti impegni, almeno un'oretta, non riesci a sistemare un po' tutta la situazione. E diciamo, adesso, guardami, sto ancora aspettando quei soldi, benedetti soldi da quello là, da quel lavoro che ho fatto, e ancora non mi ha pagato, che non so come cazzo pensare, cosa devo fare, cosa non devo fare, boh, qua, non lo so, Antonio, cosa... c'è pure le mani in alto, cosa devo fare, boh. Ma non ho un'indicazione, l'unica cosa è togliere la polvere da sopra le spalle, verrà che dopo gli dai i soldi. E poi ci sono basato anch'io su queste situazioni, purtroppo sono brutte, lavori, ti dai, tra, se ti fidi abbassi anche le mutande per non perdere il lavoro e ne approfittano. E alla fine, guarda, ti fai rispettare, perché è arrivato a un certo punto, guarda, di vita c'è una sola, se tu rispetti anche gli altri devono darti rispetto, dunque sei costretto a muoverti un po', comunque tante ce ne sono soluzioni per non sporcarti le mani, perché sono di quegli uffici che se le sporcano loro per te ci guadagnano, dunque arrivato a un certo punto guarda, vai a chi devi andare e ti fai rispettare arrivato a un certo punto, tutto lì. Questo è il mio consiglio che posso darti, senza farmi a mettere mano addosso a qualcuno, perché poi alla fine dalla ragione passi al torto, vai negli uffici, esistono a Sassari e fai rispettare i tuoi diritti, tutto lì. Antonè, che io gli ho dato tempo a domani e dopodomani, se lui dopodomani non mi dà i soldi, io lunedì sto andando, tanto conosco anche il vice direttore delle cose qua che c'è qua in Piazza dei Segni, ufficio del lavoro, parlo con lui, mi ha detto firma questa domanda, poi ce la arrangiamo noi questo signore qua. Lo so, non è facile per niente. E io vado a dare un po' di coraggio, è per forza, se no non è che le stai sempre di malumore, loro già se ne fregano, invece tu devi rovinarti il fegato dal nervoso dopo aver lavorato. Già ti capisco, guarda, ripeto, sono passato anch'io. Ma comunque per cambiare il discorso a farci rovinare il sangue, salutiamo un amore mio che è entrato adesso. Buonasera, signor Pomponio. Buonasera, saluto di ascoltato. Aspetta. Saluta Ossi. Saluta Ossi Gabbia. Il paesino tuo. Ciao. Oh, bellissima, chi sei? Buonasera. Locacco. No, non è lì. È la figlia. Aspetta, vieni qua. Beh. Saluta a Claudio. Romello. Ciao. Tutti due ciao. Ciao. Allora tu sei per Piscola. E Piscola sei tu. Ora si chiamava così a Baracchino, Pippa Vestia. Vieni qua. Vieni. Anna. Cosa vuoi dire? E che lo dico? Quello che vuoi. Dai. Sei molto latta. E la mamma si chiamava Coca-Cola, ed è per Piscola, vero Giuseppe? Mamma. Dimmi Zavatò. Sono Luigi, il nostro canale. Beh, 45. Come mai è ancora sveglio a quest'ora? Sì, c'è mio nipote qua a casa. avete tormercelato, si è mangiato e quindi rimane qua. È furba questa qui mia, sai? Ehi, c'è come l'offia. Poi c'è la mamma. Me lo fanno compagnia, dai. A me non rimane da solo, già va bene. Comunque tutto a posto oggi, sì? Sì, a parte l'antenna che non li cavo a piedi, la verità. Non c'è niente da fare, ho fatto tutte quante quelle le modifiche che dovevo fare, nulla da fare. Quello che è basta. A un certo punto, adesso vediamo cosa fare con lo... in seguito. Devo debolocciare questa antenna. La carica è a posto, lo stile a posto, misurato, stasi 7 cm 60, giusto giusto. Quindi non so cosa fare, la verità. Come stava dicendo Claudio, che dipendeva dal tubo, dall'altezza, da non so, da una risonanza, non so come l'ha fatta andare lui, perché non me ne intendo di queste cose, la verità, poi non ho mai avuto questi problemi. Ogni volta che impiazzavo le antenne all'epoca, prendevo un tubo, piazzavo e uscivo bene, tranquillo. Secondo me dovresti fare tutte le prove che tu conosci, però fare una prova non va bene, continua l'altra, sino a poi arrivare un risultato. Mi sembra strano comunque che sia l'antenna, secondo me, che sia l'antenna. Poi oltretutto, se c'è anche il cavo giuntato con lo scotch, potrebbe essere anche quello che potrebbe comportare queste problematiche. Poi alla fine devi fare, devi andare in esclusione. Devi andare in esclusione finché poi non trovi la soluzione giusta, ecco. Questo non è l'antenna. Oppure la schermata tarata, ripeto, l'ultima punta, potrebbe essere anche quello. Oppure il tubo che non scarica bene a massa, o il cavo che deve essere nuovo, il piede, ma devi controllare ogni virgola finché trovi il problema. Per forza ci deve essere una soluzione per questo, Sono anche d'accordo con te, ma è proprio, sai cos'è? Non è quello che stai pensando tu, purtroppo. Diverso. Perché c'è qualcosa di strano, non è possibile. Non lo so, ho fatto quello, tutto quello proprio che volevi tu, quello che è, non c'è niente da fare. C'era Giuseppe con me, te lo sto dicendo. Se io cambio cavo, salgo la stazione a 3, quello di giro 113, metto il 58, salgo a 2. Allora, meno male la 60enne è uguale, cambia qualche cazzata dalla mia alla tua. Io ho aperto la scatola, ok? Ho aperto la scatola, ho avvitato nei punti dove erano già predisposti fuori. L'ultimo elemento, un pallino nero, fatto a pennarello, a un'imposca, come ti pare ti piace. Ma lì ho preso l'avvito, l'ho puntato in quel punto nero, ho avvitato. Preso, piazzato, 22 metri di cavo, ma non ho fatto altro. Vedo che sto uscendo bene, poi oltretutto ho provato anche questo wattometro, che è questo pezzo della ZG, modello 108, non so se lo conosci, piccolino, 1 e 1, e sono sempre lì fisso, senza mai avuto problemi alla fine. Ho seguito solamente la traduzione della fabbrica e sto uscendo. Mi sembra strano che a te non ti dia lo stesso effetto. Un po'. Cosa fa? Non capisco perché, la verità non capisco veramente perché. Aspetta. Mi trovo così, non lo so. Proprio sono quelli. Se io sollevo che abbasso, il problema è sempre quello. Controllato la installatura, tutto controllato con Giuseppe, ho smontato, tutto con tappeti l'ho fatto, figurati tu. Non è, il problema non è quello. Cambio capo, il metodo dei giri 113, pure sale a 3. Cambio capo, davanti a Giuseppe, c'era lui, la verità, 1 e 5. Il discorso è quello lì. Quanto? Provate a cambiarla di posizione quell'antenna, anche tenendola in mano col palo, spostandola, perché ti ho detto, me l'ha fatto a me. Se hai visto bene, io adesso la 5 ottavi delle VEU ce l'avevo al posto della mantova, aveva un piano riflettente che mi faceva diventare pazzo, cioè da qua su io non riuscivo a citare i punti, e stavo iniziando a preoccupare, e ho fatto qualche forzata, magari c'è qualche vicino all'altro, anche se non si disturba. Beh, ho spostato l'antenna ai 5 metri, smessa sull'altro lato strada, una gran un'adda, sento il mondo, anche in banda laterale posso lavorare. Prima non sentivo assolutamente niente, nulla che nulla, capito? Quindi è questione di piano riflettente, perché anche a me mi creava problemi abitazionali. L'ho allontanata, tu secondo me lì c'è qualche piano riflettente, o il muro, o quella parabola, anche se vicino, qualcosa che ti sta ostacolando le radiazioni dell'antenna. E mi sa che hai ragione, lo sai perché? Io non perché, se tu, caso, sei andato a casa di Antonello, dove ha posizionato l'antenna, è un piccolissimo terrazzo, abbastanza chiuso, ma la verità molto chiuso, può darsi che durante la trasmissione veramente il segnale non esce, non sfoga e ritorna direttamente indietro. Alla fine dovrebbe secondo me alzare molto molto di più l'antenna, perché tu dici che hai paura del vento e nel caso te la porti via e dunque la tiene una certa altezza, però se calzano di più il problema venga risolto. Guarda che sono fatto quasi al massimo l'antenna di stasera, figurati tu. E la cosa metta, non so neanche io cosa, la verità. Non so cosa fare, la verità, non so cosa fare. Sto girando intorno, non so cosa fare, non mi è mai capitato, guarda, in 20 anni che installo antenne, manco, ma quello che abbiamo in 17 anni, non mi è mai capitato una cosa del genere. Solo non mi è capitato una cosa così. Quindi devo controllare con la capo del cielo, perché non è possibile una cosa così. Mai mi è capitata la cosa, in sala antenne, tutte sono trovate, tutte, una per una, ma l'avanto, voglio via 27L, via installate, tutte. Non è mai andato per me neanche una. Questa è un casino. Sembra bestemmiata sempre. Porta tranquillo, aspetta, c'è un video da parte a Giuncino. Bello, dillo a Giuncino stasera, capito? Ho attaccato il cavo, ho attaccato con il G58 e ho messo il G213, anzi sono mettato stasera da 2, sono salita a 3,5, figurati tu, quindi c'è qualcosa che non mi quadra, qualcosa, non lo so neanche io. Leoncino! Ehi, dimmi! Come li senti adesso con questa qua? Guarda, 1-2-3, 1-2-3. Ah, sono qui arrivando, Santiago, che sia una radio di 3, molto più comprensibile di prima. E sono in macchina, Tone, sono in macchina, sto provando l'antenna che mi ha prestato Antonello Pomponio, la Turbo 2001, hai capito, la sto provando. No, riescono bene perché c'è anche la verità, riescono bene, ti sentono bene tutti, poi se è di Pompugno che gli ha messo le mani addosso già funziona bene. Fa scappa, ok, riprendi dalla tua torre. E adesso posso vedere a casa tua, perché quanto c'è di ripresa di segnale, dalla macchina a casa tua, così me l'accolgo. Comunque lo ascolto meglio a casa sua che con la macchina. Io al contrario, sento più in macchina meglio, anche che giustamente la posizione dalla mia alla tua è diversa, anche alla fine se ti fidi è alla stessa linea d'aria, perché io mi faccio la finestra e lo vedo perfettamente la tua zona, Claudio. Alla fine siamo così, e poi sicuramente le antenne, tutto quello che comporta, io ho 2 cianfrusaglie, comunque lo sento meglio in macchina, la verità. Non avrei 2 cianfrusaglie, ma è un abbinamento micidiale, il gas sta funzionando bene, il microfono funziona bene, il tuo segnale è 9,40 qua, quindi a prescindere da tutto, siamo sì uno di fronte all'altro, io i paesi ce li ho più tutti davanti, quindi non ci sono problemi. No, Leoncino lo ascolto, ma in macchina sei, Giuseppe? Ma sono sceso in macchina, ho là. Dove si andi? No, sono fermo qua, così, a pigliare una boccata d'aria. Bene, sempre 9, sì, però come radio ti ascolto meglio da casa. Vabbè, quella là è la canale a pesca, giustamente, con l'altezza che c'è, anche qua, cioè io faccio il cambio, questa antenna che ho nella macchina, piazzata lì, mi sentirà essere però spesso bene. ci devo trovare la soluzione per zio Pompunio, con le cine, questo qua minimo i giorni che non dorme per risolvere il problema. Guarda che io dormo, non è il problema, è quello. C'è la campera, ne stacco tutto, ci metto la campera, non è che mi devo mettere il solito per quello, no? Lo saranno. Vabbè, prendila come sfida, dai, vedrai che riesci a trovare la soluzione, anche da questi piccoli problemi si impara, alla fine. Io mi sarei segnato finché non avrei risolto il problema, perché a volte quando mi piace una cosa, ti giuro, sto tutta la notte facendo sì all'indomani, finché non la finisco, non la faccio perfetta come io desidero, Ma vedi, la verità, non ci dormo, a volte le cose mi sono neanche di notte per farmi l'indomani, per cercare di realizzarmi. Dunque vai tranquillo che per forza la soluzione ci deve essere, sempre sperando che non sia l'antenna, diciamo, mal costruita, potrebbe anche capitare dalla fabbrica, ma io spero di no, non ti voglio mettere questa paranoia, È sicuro. Ciao, antasalutore. Guarda che stamattina ho preso la misura, giusta quello che c'è scritto nel foglietto, per il canale 20. 27,5 sono 76 centimetri, 7 centimetri e 60 giustificati. Ho fatto un tiro così, l'ho messa in basso, 1,5, la salgo in alto, 1,5, e non c'è niente da fare. Addirittura c'era Giuseppe davanti a me. Fanello. Sì. Io gli ho detto a Alessio, guarda che Polacci, che sia il palo, che sia rispettoso, Hai capito? Ma io lo sai cosa ha fatto, l'ha pulito anche il giorno, quando due sabati fa, l'abbiamo, diciamo, io sono stato a pulirlo, a toglierlo dall'osso e tutto quanto, l'ha pulito bene in modo che facesse del massa alla fine, eppure non cambiava niente ugualmente. Comunque saluto a zio Falchetto, buonasera, che ti ho visto su quel punto zio Falchetto. Hai visto, hai visto che bel tipo è sotto. Infatti quando ti ho messo il computer, io e te siamo messi a ridere, ma è elegante e bello. Marito, fammi vedere qualche con le fotografie del raduno, perché qua adesso lo faccio vedere, guarda il bello. Bello, rilevi dietro, manco male male ne ha tutti, è sempre a piatto pieno, però è sempre magnene soprattutto. Troppo poco, sì. Ma di roccia, vai. Si fa quel che si può, guardi. Tranquillo, sto mangiando. Un gelatino, già fa bene. C'è anche barra agricola, barra lì. Ah, barra agricola. E non ti sei parato due. Barra. Ha detto che sta varando i gabbiani. Varando i gabbiani, caspitina. Andiamo bene già. Ci ha detto. Va bene. Comunque Antonelli, c'è un problema secondo me di riflessione. C'è qualcosa che sta riflettendo sull'antenna stessa, quindi vedi che rispettando le misure, praticamente facendola scendere più in basso o dandola una misura media, riesci a recuperare qualcosa, quindi 1,5 non sei così messo male. Io lavoro nei canali alti con la mantola, oltre su 45 c'è 1,3, però oltre i 45 vado anche a 1,4, quindi non è quello il problema. Chiaramente l'accordatore butto tutto giù, però è sempre questione di piano riflettente. Lì bisognerebbe fare come avevi fatto una volta, tirarla su tutta e provare, oppure cambiare posizione, o mantenere quella che hai. Quale stazionale hai adesso così? Molto poco. Sto una piccata la gabbia sì. No, io già dormo, non ci dormo, no, mi devo far combinare qualcosa. Ma è che lo sto sempre facendo. Sto un minuto fermo, sempre toccando, controllando e attendo. E vabbè, la passione è importante a questo, come vedi una cosa, non siamo male, fai. Io ho visto come ci ho tutto in ordine, non vedi cavi, niente, vabbè, dietro, lo so per radio. parlare, cambiare un po' ogni tanto per avere un punto diverso, è come sono io a casa lo stesso. Quando c'è qualcosa che voglio migliorare, mi assillo, prendo il sistema, spolvere e metto una posizione diversa, tanto per cambiare sarà anche più comodo alla fine, e anche io sono così lo stesso. Comunque vado a stare, la mia postazione è questa, cioè una poltroncina abbastanza bassa che ti puoi sdraiare leggermente in questa palettina fatta in ferro zingato, in quelle palettine che noi abbiamo a città mercato, una specie di scaffali all'aperto, e in un piano basso c'è tutta l'attrezzatura per la migrazione. Dunque tu sei più professionale, io sono più in comunità alla fine, capito? Certo, bisogna essere anche comodi, no, qua già ce n'è spazio, già hai visto. Adesso appena tolgo fuori quell'altra roba che c'è lì, molto probabilmente farò anche l'altro pezzo, ma vediamo. E beh, perché? Come altro ci faccio sentire stasera, non lo dici? Bueno, il Truglio, vabbè, lasciamolo stare, fa piacere anche quello. Stavo dicendo, no, vedete, stavo facendo cose in cucina e non sono entrato, adesso ho finito e sono entrato giusto a scambiare due parole. Sì, vabbè, c'è quello con la pennacchietta, e sempre ogni tanto entra con questa timbrica microfonica che si conosce a un chilometro di distanza. Io un gabbo già, oh, vabbè, dai, mi è sembrato un gabbo comunque. Fate del reattore. Mi ha fatto gli occhi, mi ha fatto venire nuove idee, mi ha fatto piacere andare, gentilissimo. C'è stato di quella roba, Dio mio santo, che è impressionante, non ho mai visto in vita mia una roba del genere. Niente invidia perché non sono invidioso, però mi ha dato nuove idee per farmi anche a me la mia stazione, anche se non riuscirò mai a avere la sua, comunque nel mio piccolo già mi ha contento ugualmente, è una bella storia, porca miseria, anche troppo bella. E poi stavo pensando di scaricare la tua foto dal computer e averne una io in casa e una e una Claudia, così per ricordo. Voi siamo offende, no? No, lo siamo sempre, ma sei bello però. Fatela saltare la Claudia, non ci sarà problema, non ci sarà problema. Sotto ci scrivo zio Falchetto, poi ci vorrà anche la foto di Claudio, zio Claudio, dai, alla fine, quando sarà con la via della 80 anni, mi guardo lì, mi abbaglio, è un vedere con tutto duo. È andato via da Falchetto? Sì, Ma io ci ho parlato anche se Antonello. Antonello, Riussi. Eia. Aspetta che come, ormai sono segnale. Adesso sei un bombo, una bella 9, Santiago 9, la bella 25. Limpida, limpida, limpida. Adesso sì che ti sento. Ciao Antonio Falchetto, buonasera. Ciao, buonasera, ben sentito anche a te, Carlo. Aspettando, tutto a posto, no? Tutto a posto, niente arrosto. Bella come tutto a rivendere, a te, sul segnale. E te l'ha salvato, delinquente. Ah? E te l'ha salvato. Scusa, sono nel posto maniaco, ho preso. Ciao, va bene, adesso segnale, dai, è bellissimo. Per la radio, per segnale, è così che vuole la stazione, allora, vai, grazie. Allora, così vuole. Già va bene, Giuseppe, lascialo tu, Gaia, va bene. Chissà dove sei, in che montagna sei, vicino a casa mia. No, sono su a... alla cosa, a San Francesco, dai. Ah, da lì già esci meglio. Non c'è problema, prendo una bocchetta d'aria e tutte cose. Già va bene. Non ci stanno problemi, Questa voce non è una cosa, non la metto più. Guardate il giornale, Antonio. Quale giornale. Ma non sa bene, guardate. No, la verità non ha avuto la verità l'occasione. No, per niente, lavoro domani veramente in biblioteca, che lì c'è sempre il giornale, così uno di Nuove Sardegna alla fine, cioè sarà quella di domani e quella di ieri. E dunque la guardo lì domani, la verità. Ma questo gelato, quanto dura? Sei da poco fa che stai mangiando? Domani che è? Quello muscio, non me la piuccio. Comunque, però una foto di Del Falchetto. Ti ho sentito tra le parole la foto di Del Falchetto? Ti ho sentito? Io ce l'ho già nel computer, io me l'ho messa nella pagina iniziale. Con mi accendo il computer c'è lui che sta ridendo. E fora. Come male due? Chi è che chiama Sassa lì? Quando faccio il trapianto te lo faccio sapere. Mara Agricola, buonasera, ben sentito. Buonasera anche a lei, dottoressa. Devi scambiare per femminella adesso, dai. Già sono un bel mascolo. Ma quando è il Falchè che sta cambiando sessualità? Questa è mia nuova, eh. Va bene, ma Mara Agricola più o meno chiama tutti, dottoressa, capito? Perché lui è abituato a dare lì a tutti, capito? Ecco, vabbè, dai, mi stavo già preoccupando, comunque era già tutto a posto allora. Sì, ehi, grazie a Dio, già ancora ce la sentiamo, vai. Però ha detto Barra Agricola che lei è morto il canarino. No, ci aveva un canarino. Anch'io c'avevo il canarino, però è morto, adesso c'è solo l'uccellino. Beh, è importante avere almeno l'uccellino, se non altro. Allora, poi ho cantato la canzone. Bella Giuse, Giuse! Sì, tra l'altro che ci vuole, una passata del sindaco di Proaga, quello lì. Adesso canto, si spegne il trattore, canto, vedi, che non modula più. Se si spegne il trattore a Baragli con tutti quei fari che c'ha, quanti ne hai acceso Baragli? Allora ne ha 18 avanti e 22 dietro. Con il gruppo elettrogeno va a fare tanto, tanto di mio caro. Dopo Giorgio Sigurifero in cabina, Giorgio Sigurifero l'istintore. Quello che ti ha fatto vedere al scritto, sì, quello è il signor Luigi Vulcano, Don Luigi, Don Gigi. Signor Vulcano, ma io per la voce mi sembravi un trentenne. Io invece ho fatto una foto, c'è questa voce così giovane, non credevo che ce ne anche i baffi. Ma forse non hai capito, Antonè. Diciamo che forse lo spirito che c'ho dentro è meno anche di un trentenne, capito? Perché io sto sempre mezzo giovane, capito? Sto sempre mezzo giovane, capito? E quello sì, te lo auguro che continui così, però per la modulazione mi sembra più un ragazzotto, invece è tutta un'altra storia. E sì, ma lo so, Antonè, lo so che è così, cara. A volte le donne si innamorano della voce, poi quando mi vedo, mannaggia, io pensavo un altro con gli occhi giovane, 20 anni, invece mi trovano uno di oltre 40 anni. È vero, comunque vuol dire che tu invecchi molto più tardi, complimenti, comunque buonasera Antonello. Buonasera, e anzi mi hanno detto lì alla festa, cazzo che era più grande mio figlio di me. Sembrava più grande mio figlio. Vuol dire che il tuo orologio interno è molto più lento di quello degli altri fisicamente, eh? Anche quello è una bella fortuna. E non so, grazie a Dio se mi tocco, eh. No, è ancora già. Gli anni ci sono, ma mi sento molto giovane ancora, capito? Ancora salto la pietra quanto la noce, capito? Ah, va benissimo. Avanti, zio Falchè. Ehi, ehi, Gigi, salti la pietra quanto la noce. Allora, già va bene, dai. Oh, Claudia, che era uno dei più anziani, forse dei più grandi lì in quella festa. No, forse Paolo Alfa 2 è più grande, era il più grande da Paolo lì in quella festa, dai. Se no, ero quasi uno dei più grandi. Ehi, ma se tu eri il più grande lì, fa un po' di montone in garraggio, Gigi, io ti conosco da tanti anni, ma meritatamente so quanti anni hai, ma te li porti alla grande, veramente, perché lì io ne ho visto tanti e ho chiesto, chiamo sì, grande sì, pari anni non me ne ho 80 anni, ma per favore, vabbè che il lavoro del camionista, se è fatto bene con criterio, può anche andare, ma se ti lasci poco poco andare, che viaggi molto per il continente qui e là e dormi dentro la barra, quindi non sei riposato come te, che fai già una linea diversa, è tribula. Ascolta, guarda che ho messo già da parte quell'antenna, quella che mi hai detto, frettatura che ti serve, che qua già vicino alla porta. E domani mattina la metto in macchina, perché domenica mattina faccio un salto. Capito, faccio un salto domenica mattina, molto probabilmente scende anche Pino, dobbiamo vedere una cosetta assieme. Positivo, positivo, cosa ti volevo dire? Palmiro ti ha chiamato, ha avuto il numero di telefono. Allora era lui stasera, mi chiamava, andava a rispondere, pronto, non lo sentivo, ma già partito. E sei a Ulpia, dai. Forse ho detto cosa è, comunque mi avete detto, chiamerà. Ah, Palmerio, non avevo capito cosa, Baranauti. Sì, Palmerio mi ha chiamato, tutto a posto, sì. Ho spiegato alcune cose, adesso poi ci vedremo, vediamo un po' come risolverla quella cosa. Perché è un lavoro un po' particolare, comunque adesso andrò a fare una visura prima di farle fare la richiesta che deve fare, poi vediamo lui. Perché non so se te l'ha spiegato, è morto, il padre è morto da poco e lei è rimasta sola, capito? Mia sorella è sola, capito? E c'è anche la più grande di tutte, c'è una certa età pure, capito? Non è tanto ragazzina, anche lì se non ce l'ha 80 anni poco gli mancano a me. No, ma già gliela sentiamo subito la situazione, solo è così. Mi preparano la documentazione che serve, si presenta la domanda e poi già tornerò giù io. Ce la sistemiamo, Gigi, non ti preoccupare, per Palmerio questo e altro, e poi ci tengo moltissimo a queste cose. Forse l'hai capito, è mia sorella, la più grande, quella lì, capito? ascolto, eh. Questo ci fa piacere, Antonio Brode. Guarda che Barra Agricola nel trattore c'è una cola di mattone. Lo tira a fucile se è vera una cosa del genere. Ma è in cosa? In ruota? Sì, vero Salvatore, diglielo adesso al titolare del nominativo, diglielo che c'è una cola di mattone attaccata al trattore, diglielo. Importante non l'hai dato, Cla. Sì, che l'ho dato, ti ho anche chiamato, cacchio, guarda. Lo sto accendendo. Aspetta. Ma sull'uno sì. Sì, se vuoi ti do la frequenza. 433075, quella lì è. Oh, aspetta un attimino allora, Vieni che siete fuori. 433075. Libero, senza shift. Attivo, sei tu fuori. Per il semplice fatto che tu mi hai detto PMR, invece tu sei nell'FD. Lo so, nell'FD sono, sì. No, dove eravamo ieri? L'FD. Sono lì. Ok, va bene. Antonella, riprendilo, vabbè, fai girare. Adesso. Leoncino, ma non ti fai sentire? Dimmi, Antonella, dimmi. Tu qualcosa, sei sempre in disparte, io. Non si lasciano le persone da messe da parte. Beh, io stavo ascoltando a voi. Voi, se voi non mi avete rilasciato, io non parlo. Ma devo fare parte anche tu. Scusa, di te non mi dimentico di nessuno. Io, dai. Di qualcosa di bello. Cosa vuoi dire, cazzo? Ma sono uscito da casa per pigliare un paio di boccate d'aria e fare quattro chiacchiere con gli amici. Sono venuto qua nella zona Ickes, dove si prende di più. Non so se sarei venuto in vita, a Ussi, avrei fatto un viaggetto, così con la scusa. Quando capita l'occasione non c'è problema, mi chiami, ci beviamo qualcosa, per carità. Già, non si impoverisce per queste cose. Che cappa. No, volevo sentire ma Antonio è andato di là, no, Grote, è andato di là. Ma intanto facevo le prove, poi non ho capito bene. Comunque per chiamarmi, Antu. Sicuramente sta facendo le prove. Dio poi che? Mandi. Aiuto, a te bocca, Vani. Io guarda che siamo tutto, che c'ho ospiti e niente, dai, vi auguro una buona notte, buon tutto, io faccio QRT perché c'ho ospiti, dai, ci si riascolta domani, ci si riaggiorna domani, dai, saluto le bene te QRA e tutta la ruota, dai, nessuno è escluso, Falchetto QRT definitivo, ciao! Ciao Levi! Ok, comunque domani notte, tardi, sì? Allora ti sento anche verso le 3 di notte domani. Andrà bene. No, Claudio, c'ho ospiti, dai. Sto chiudendo. Si aggiorna tutta domani, Claudio. Va bene. No, io stavo facendo solo una prova con Antonio Brode. Un contattino e basta. Antonio, ti saluta Marco. Marco, che parla anche qua al 27. A Bisese. Ho capito. Marco? E Marco ha detto che parla qua al 27. Vabbè, controcambiate, salute, sì. Beh, certo. Sempre alla grande, zio Antu. D'accordo. Va bene, dai ragazzo, fatevela buona. Buonanotte, buon 144 a tutti e ci si riascolta domani, dai, che c'ho spettini, se no che mi sparano. Ciao, buonanotte a tutti. Ok, that's tanti saluti dal sindaco di Proaghe. La massa te ne fare a te, allo sindaco. Te lo auguri. Ciao a tutti voi, ciao, ciao. Non è nuda. Avanti, vai a attendere le persone, dai, siamo qua, non ti preoccupare. Io giro Volcà, capito mi hai? Poi domenica mattina dobbiamo anche quell'antenna lì, quella che hai visto, quella che hai detto tu. Positivo, positivo. Positivo è Caparrogero, ma c'era una volta quel Marco, insomma, ho parlato qualche volta con quello della Liguria. Non è quel Marco, è un altro Marco, è questo. No, quello di Sassolesi. Quello è la Ligure, che anche rompe in palle, secondo me. Faceva un sacco di bordello. No, questo è Marco, parla con noi, 27, non stavamo facendo altro bene le figli. E allora è entrato anche lì, ha sentito la voce, ha detto che salutare. Antonio Gode, sono tutti ospiti, diciamo. Io invece sempre ragione, io e mia moglie. Mia figlia ha preso, è uscita a lavoro e se n'è andata al ghiero con una sua amica. Ha rientrato ad una mazzana, va bene, non c'è problema. Vuol dire che noi dobbiamo rimanere soli. Sì, ma domani già me ne esco io. Domani porto Torres, la mansione sarta e poi avere sto camerlo allettivo e ci tratteniamo un po' al prodotto già fresco. Ormai dovrebbe essere bello, Positivo, organizzato da Pierluigi Fiori nel manifesto visto ieri. Pierluigi come si chiama, dai? Il comandante è sempre lui, il comandante di questa manifestazione è sempre lui. Allora, Antone, all'intelligence di Luigi. Antone. No, ha chiuso Antone. Non lo so. Ma che ne so? 10:30. E che Caparroccia. Che c'è rimasto? Solo Giuseppe c'è rimasto. E basta. Digetto. Yeah, Giuseppe. Tutto a posto, sì. Positivo, positivo, sono seduto in forse nella poltrona Luigi XVI e niente, sono un pascià, sdraiato proprio. Bene, fai bene. Comunque, stavo dicendo, con Claro ne stavamo parlando di quella questione là, di questo apparato che ho in macchina, quel piccolino che è uguale al tuo. Domenica ci sentiamo e così te lo lascio e le fai qualche cosa, hai capito? Cosa c'hai tu, 44? Che cosa c'hai di piccolo tu? Quello nero, ti ricordi quando sono venuto per il Mike che mi ha detto ce l'ho uguale, io ti ho detto ce l'ho uguale in macchina quello lì, il Migra, l'Ala. Quello lì, che ce l'ho anche io quello lì. E beh, cosa vuoi fare? Niente, Pompolino te l'ho aumentato, basta tagliare il trim e te lo apri appena. E vabbè, ma tu cosa mi hai detto? Lasciamelo e poi te lo guardo io, se si può fare qualcosa. Positivo, ma mi hai che bruciato la Pompolino o no? Cosa? Hai portato l'Antonello Pompolino o no? Sì, l'avevo portato l'Antonello, ma mi ha detto di lasciarlo così, che no, che lui, diciamo, che non si poteva fare più di tanto. Ma tu mi avevi detto che con quell'apparato lì l'avevi fatto sollevare di un po'. Quello mio è arrivato sino a 9 watt, ma non te l'ha aperto un coso Antonello, ma penso che te l'abbia fatto, mi pare che me l'ha detto che te l'ha già fatto, se l'ha fatto lui, ma capito, se te l'ha fatto lui è inutile che lo apri a fare, capito, c'è da girare un trim, non c'è da fare altro. Vabbè, là. Cioè, non si può fare altro, lo lascio così e ciccia. Sto per l'abitato di Giuseppe. può fare nulla, no, su quelle lì non puoi fare altro, niente li puoi fare, o Giuseppe, puoi mettere un microfono amplificato, io mi ho cambiato il coso, dai, come si chiama, me l'ho fatta tipo Mida la 48, che aveva quello, il microfono entrava in casa, lo spinotto mi era di quelli in casa, e l'ho cambiato dentro, e l'ho cambiato, l'ho tolto quel coso e l'ho messo a 4, e più l'ho aumentato, e poi invece l'ho riportato a 4 watt e mezzo, l'ho riportato nuovamente normale a 4 watt e mezzo. Spiega una cosa, G, ma perché il tuo, quello uguale al mio, spara più di questo qua? Me lo devi spiegare. Quello è di Gigi Vulcano, e quello di Giuseppe, non mi metto più il nome nativo, non me lo ricordo adesso, di Grotto, cosa come dire? E K, vabbè, comunque, io l'ho sentito quello lì, quello che stavi, quello uguale al mio, spara che cazzo che è un demonio, cazzo, perché io ero a casa e tu stavi usando, la sera stavo usando questo qua, il Lara, e stavo uscendo con, mio stavo uscendo con 10 watt. Non lo so, ma anche con le... No, ma la radio è diversa dall'altra, ma anche di preciso, ma può diversere le cose. Quello me lo detto tutte altre, ma mi hanno sempre fatto i complimenti ed è un giocattolo a quell'apparato lì. Non mi ricordo neanche se avevo fatto il ponticello dietro, adesso non me lo ricordo, perché qualcuno l'ho fatto, adesso non lo sto facendo più, non ne faccio più di questi ponticelli. Però non si può fare più tanto su quel che è l'apparato lì, capito Giuseppe? Non puoi fare le modifiche, non ne puoi cambiare neanche il finale, metterlo più potente, non glielo puoi fare. Solo aprirle le radio un po' e ricordo che ti alza qualche watt così. Non so come ha fatto, c'è salita 9 watt, non ho capito neanche io come abbia fatto quel baracchinetto lì. E poi l'ho ritornato indietro a 4 e mezzo io, 4 watt e mezzo l'ho messo adesso, capito? Ma allora c'era qualcosa che lo facevamo fare, tipo il microfono, tipo quello che mi hai dato tu, l'Alan F10, che era amplificato. Quello non ci va, tu l'attacco, allora quello andava, si poteva abbinare a quell'apparato, io perché gli avevo fatto l'attacco dello spinotto nel baracchino, gliel'ho cambiato io, gli ho fatto a 4, hai capito? E adopero i microfoni della Midra, tipo questo sto operando qua adesso. Vabbè dai, già al limite ti faccio vedere anche l'altro, quello che c'ho nella stazione fissa che ti stavo raccontando di quella storia di quel pescatore, te lo porto e lo vedi. Quello voglio vedere, quello lo devo vedere, capito? Quello devo proprio vedere. Con le mani di cacciaviti dentro, più o meno di tu chi è meglio è, capito mai Giuseppe? Ah, ma no, io questo non l'ho fatto toccare nel solo a Alessio, gli ho detto di regolarmi di ricorso di uscita, che era 4 e l'ho fatto portare a 7 e mezzo, da 8, dai. E l'ho già fatto il pompurio, e appunto. L'ha già fatto, cioè, di solito stare 6, quasi a 9 arriva pure, capito? Quello andava tutti a 9 più, non so come mai, però di solito va a 7, quando lo giri arrivi a 7, 8, capito? Così fa, è così, no, poi me lo ricordo, mi ha detto con Puglia, però non l'ho aperto neanche perché mi aveva detto che l'aveva già fatto Antonello. Ed è così, che cosa vuoi fare? Non puoi fare altro nulla con il paracchino, nulla, non puoi fare proprio altro niente. Ah, ci sentiamo domenica mattina alle 10 e mezza a casa tua, dai. Positivo, positivo. Bueno, ci troviamo tutti quanti, io, Claudio, e ci conosciamo tutti quanti, dai. Anche se gli amici di Claudio non li conosco, però abbiamo l'onore di conoscere. Poi ho ragione, Andrew, quando vado a casa da ieri, non mi butto la minchia. Vabbè, tu hai detto, scendo assieme a un amico, allora ci conosciamo. No, non c'è problema, io scendo da solo. Deve venire un'altra persona a trovare a Pinuccio, ma è anche amico mio, cioè a Pinuccio mi ha Luigi, è anche amico mio, ma lui viene da solo, se ce la fa, detto. Va bene, comunque, salì, prima di quello di mettermela in macchina, in quella rossa, la domenica quando termino il giro, faccio un salto. Per essere ascoltati, quello già è vero. capisco, la vera ripeto, ci sono passato anch'io, tutto lì. Mirentrone, e tu invece come l'hai passata la settimana? Perché Gianni c'è? L'ho sentito. No, Gianni, quello è Giuseppe Leoncino. Non si devono preoccupare, stiamo parlando di licenziamenti, non stiamo parlando di niente, cioè questa preoccupazione di ritardati pagamenti sui stipendi, ma non è che l'azienda è in crisi o che viene in uscita, c'è solo questa cosa che il giornale ha scritto ed è una cosa giusta, cioè non si può continuare a anticipare soldi per gli altri, se le cose sono state divise a te il bianco e noi il nero, tu devi lavorare sul bianco e noi sul nero, però la regione deve praticamente chiudere tutti questi buchi che sta facendo il bianco, perché il nero buchi non ne ha, noi buchi non ne abbiamo, la motivazione buchi non ne ha, anche molto solida, più dell'altra, no? E in più 9 mesi che anticipa i stipendi lì, perché l'altra soldi non ne ha, adesso è trovata, adesso o mi ritorno i soldi che ho anticipato io, se no io blocco tutto e ti arrangi. Quindi succederà un casino, capito? Spero che si metta a posto. Si stanno scornando tra di loro per questione di denaro, no? Non di certo di personale. Il personale va anche troppo bene per quanto mi riguarda, perlomeno le zone che ho io, poi le zone che ci hanno gli altri, non lo so, ma le zone che ho io, ce ne fosse di gente che voglia veramente lavorare come quella. Ok, Giuseppe, ripeti. Giuseppe. Qua. E sei qua, già ho capito che sei qua, riprendi, di qualcosa. Cosa vuoi dire qua? Passando l'ora, e così, mi danno una boccata d'aria, adesso piano piano mi cammino e mi rientro a casa, mi guardo un po' di televisione e poi a nanna. Intanto mi adesso l'11 chiudiamo tutti, anch'io mi vado a fare presto, ma sono o non è la verità, però voglio staccare un po' la radio, io sono tutta la sera chiuso. Chiuso qua dentro, anche se da fare già ce n'è qua, vi accendi una, spegni una, attacchi l'altra, adesso stavo facendo delle connessioni, ma cioè fate ti accesi, gatto me rivende un caldo alla mola di Rugudo, lui. Gamma, no, io già sto bene, sulla finestra è. Non è un caldo, non ne ho, sto bene. Chi? Ciao Luigi. A lei, grazie a Luigi. Ah, perché io non lavoro, non sono fatto. Secondo te lo travaglio, non ho fatto nulla della mandana alla zia, un bel amico sì. Parlate assieme. Sabato, mannaggia la miseria, se sta già parlando lui, tu ci parli ancora sopra, basta fai il minestrone, mi fa il minestrone proprio, con la palmata addirittura. E se domani invece in paese c'è la pecorata all'entrata del paese. Pecorata, pasta e arrosto, tutto gratis, se volete accomodare domani in paese alle 8 inizia il magna magna. Allora ti conviene parlare a bassa voce, non so quanti cani magna loro, vi a Sassari che domani vengono lì a mangiare gratis. Lo so, ma anche in paese lo stesso, ma lo sono di Ursule, a Sargente di Ursi già, quando c'è la magna a vedere come escono, e dopo la settimana non vedi neanche un cane in giro, ma è tranquillo che domani sarà tutto il paese mangiando. Ma domani mia, sabato alle 9, quello sarà il primo, dimmi, ma di che è da buffo. Emi, no, è la prima persona che hai proprio indovinato, è già proprio così già. Ah, Ludo che c'è da mangiare. Tanto io mandi a pago, se no lo fai da già. E poi anche appassionato di animali, Pietro è nel padre mandicare, anzi prima di tutto devi buffare, se il padre buffare Ino è il suo primo, E poco assinato proprio gli animali. Te non ho compreso la zona italiana. Salvatore, ho detto, è assinato molto con gli animali, ne ha pochi gli animali in casa, che manco un'idea ne hai. Pietro? No, Salvatore. Ah, io stavo dicendo Pietro Lurica, non so se lo conosci tu, il trasportatore. Pietro, quando fa festa deve mandicare, deve buffare più deve mandicare le bestie in prima fila. Il vino ce n'è così in paese. E poi se nel caso volete, adesso passa una serata diversa domani e fate un giro in paese, vi sedete, c'è il posto a sedere, ci sono i giardini di fianco, tutto ben illuminato, pulito, sistemato e vi sedete a magnà. Cioè è bello, almeno passate un po' di una serata in mezzo alla gente. Ma sempre sta guidando Pietro lui? Sì, sta guidando sempre e sta bevendo sempre. Poi sono tanto che tengo l'inghillento su per le 5 io viaggio ragazzi, viaggio ragazzi. Tu si dice, e gli era morta la moglie a Pietro, la Pietro anche giovane era. E quello che l'ho saputo, conosco Mario Giovanni, conosco tutti i fratelli di lui. Con Pietro stesso lui viaggiava per Salis, io ero lì di fronte alla Fraco, ci vedevamo spesso. Capito? Ma quelli rossi qui dove c'è scritto Loriga, Cidernet, quelli sono tutti suoi. Sì, sì, tutti di Pietro sono quelli lì. Trovavamo lui la macchina dove è stato il treno, viaggiavamo assieme, capito, da Salis. Io c'ho stato 11 anni che viaggiavo con dove sono adesso, con questa ditta, ma dentro da Salis. Io, Pietro e Antonio Zitta, capito? E Antonio Zitta c'era, Gavino Muroni, da Cisio, capito? Però eravamo Pietro e viaggiavamo a zona Rogliata, a Nuoro, eravamo sempre assieme con Pietro. La mattina facevamo tutte le tappe e basta da Nuoro, e allora si andava a portare di whisky, di gozzo, oggi. La mattina dopo il caffè era roba forte ci voleva, ma adesso roba forte non ce ne vuole più. Questa voce era, ma Antonio Zitta chi è? Fratello di quello che è morto? Antonio Zitta è quello che è morto. Antonio Bruno è il figlio, c'è adesso che sta lavorando qui, Palmiro sta lavorando con Zitta, con Bruno. Antonio è il padre che è morto. E quello, ma com'è, no? Bravo, bravo, quella, ma com'è, bravo. Mi ricordo perché c'era Michele a un paio di chilometri da lui, ma stavo parlando al baracchino, poi l'ha chiamato, l'ha sentito più. Quando è arrivato sopra la piana di Campera, perché lui era già sopra, e Michele era sotto, mi ricordo, proprio la salita di nuovo, e lui invece era già sopra la piana. Lo chiamavo, rispondeva. E quando è salito su non ha fatto altro che vedere la colonna di macchine, il camion e la percorsia a sinistra, sbattuto alla luce. E poverino, un grande uomo era quello, un sacrificio a mille per portare avanti la baracca e poi, visto. Grande lavoratore comunque, sì, quello l'ha fregato perché era il secondo viaggio che stava facendo a Cagliari, capito? Era il secondo, Claudia, due viaggi faceva a Cagliari, le gordicchie a volte, vedi, si è lasciato la pelle, faceva due viaggi al giorno, faceva quei fusti, quelle cose erano leggeri, ma andava e partiva in 80 se poteva per andare a Cagliari, scaricava, tornava, caricava e tornava a andare, capito? Gordigina lui, quelli sono i grandi sacrifici che si fanno purtroppo, però con una certa età, quando sbagli paghi, con l'articolato quando sbagli paghi, non andava. Va bene signore, dai, sono le 11, sono 5 ore esatte, alle 11 ore dove sono entrate le 5, scherzando il treno, una battuta e l'altra, se vuoi sempre usare i nocchi. Quindi adesso spengo tutto, vi saluto, grazie, Gigi, domani non sono sicuro se ci vediamo, ma domenica sì, domani mattina ce l'ho a fare, tutti i giri, tutte le fine mese, tutte le relazioni da ritirare, da fare, quindi mi organizzo già tutta la documentazione, almeno sono libero domenica mattina, e ci vediamo domenica mattina di persona. Stanno bene, ciao anche a Antonello, ciao anche a Leoncino, a Trofunconio, a Glode se si è ancora in ascolto, insomma, all'Agricola, fai da bravo e basta, sei 12 ore che stai lavorando, basta. soldi, sempre sotto il mattone di Tremettello. Un abbraccio circolare a tutti, vi saluto e ci sentiamo domani. Avanti Antonio. Eia, buonanotte, nel caso a domani, dai, poi ti faccio sapere per l'antenna. Grazie della, diciamo, dell'insegnamento, dai, e poi vediamo un po' cosa ne esce fuori. A domani allora. Non ti preoccupi tu, facciamo e costruiamo. Vai Gigi, buonanotte a tutti. Ciao Cody, buonanotte, dai. Ciao. Notte Barragri. Buonanotte e ritirati di lì, che è ora di ritirarti. Stai facendo, Arando, cosa stai facendo? Oh, per fare che? Per muovere la terra e basta. Così alle prime acque, semina a fine agosto, cosa ti devi seminare? Così Antone, un gasotto Antone, un gasotto. Comunque ho 38 anni di contributi, quasi 39, non so, però 38 li ho già fatti. Immaginati un po', 38 anni di contributi che qualcuno me l'hanno pure fregato. Se ti capisco già, non vedo l'ora di stare a casa con la famiglia, sederti e riposarti, invece ancora bisogna tribulare, così alla fine. È positivo, ti dico che c'ho dei puntini io, c'ho dei puntini perché sono nonno quattro volte, io sono nonno, non una volta, né due, quattro dei puntini c'ho. Anche quella è una bella soddisfazione, sì. E dunque a conti fatti quanto dovresti continuare a lavorare, perché alla fine con queste leggi italiane non si capisce più quando uno dovrebbe andare a riposarsi. Dunque a conti fatti quanti anni devi continuare ancora? Prima di 41 anni i contributi, 41 anni e posso andare in pensione, se non cambia qualcosa. Prima era 40 e sono arrivato a 41, capito? E niente, devo lavorare ancora a 41 anni, se sono 38, allora siamo 38, l'anno scorso, così mi avevano detto, parlo che siamo 38, adesso ho fatti 38, altri 3 anni. La passano in fretta, dai, alla fine, così, con la scusa ti riposi nella sedia modulando, almeno riposi un pochettino, ma alla fine poi quando uno è abituato a lavorare non riesce a rimanere fermo, anche essendo in pensione, vai tranquillo. È positivo, io non ho lavorato una vita, sono in casa, sono una vita che sto lavorando, capito? Una vita, io ho fatto lavoro un bel pesante, io quando ero ragazzo lavoravo facendo questo lavoro, sto facendo adesso, viaggiavo giorno e notte, allora controlli non ce n'erano, e per guadagnare un po' di soldi si viaggiava giorno e notte, usciva la mattina alle 3 ti alzavi e la sera alzavi alle 3 del mattino e a rientrare, tutto mi è sempre viaggiando, a rientrare alle 3 dell'altro domani mattina. Beh, poi alla fine le tasche si è riuscita a riempirtele. Periodo sì, ma adesso si sono svuotate. In quel periodo sì, che sono riuscito a fare tante cose, in quel periodo sì, guadagnavo abbastanza. Se un operaio prendeva 800.000 lire, io ne prendevo 2 milioni sì, capito? C'era questa differenza, c'era, perché lo stipendio era 800.000 lire, io ne prendevo 2 milioni sì. Io non so quanti sacrifici, se mi fai adesso invece non sei mai retribuito, diciamo, come si deve, è un caso, una situazione, non sta andando per niente bene per nessuno purtroppo. Positivo, sto parlando oltre 20 anni fa, non sto parlando adesso, oltre 20 anni fa sto parlando. Questo non lo metto in dubbio, ma anche c'è stato questo cambio dell'euro, dalla lira all'euro, ma le lezioni sono sempre approfittate, già è vero. Comunque minimo prendere minimo la metà di quello che prendevi prima sicuramente. Sì, io neanche la metà in proporzione, no, se noi facciamo proporzione no Antone. No, la cosa non era così cara, era costava molto di meno, capito? Costava molto di meno e niente. casa non la sto fatta in quel periodo lì, l'affitto. Oggi no, ma non riesco neanche, ma cosa riesco a fare? Niente più. Ma anche a casa lo stesso, anche io faccio ore e ore, però non è che ti retribuiscono a dovere per il lavoro che fai. Sì, è vero, sei costretto a mangiare e basta, e cercare di comprarti i vestiti quando ti arriva la tredicesima, quattordicesima e continuare sempre a pagare le tasse e basta, è vero, no, non bastano più i soldi. E poi alla fine non vado al bar, non siamo spendaccioni a casa, prendiamo il necessario, però alla fine, a fine mese, ti accorgi, ma dove abbiamo messo questi soldi? No, veramente la cosa è abbastanza tragica, e no, non è da scherzare. Purtroppo è che nessuno si va a fare per farsi difendere e risolvere la situazione, dunque non so cosa più pensare arrivato a un certo punto. Ah, se mi metto in tasca 50 euro, se io mi metto in tasca 50 euro, vado al fatto, esco in vettura, vado al rifornitore, faccio il rifornimento, vado a comprarmi una cosa, chi devo fare il negozio, allora non c'ho più 50 euro, sono finiti. E erano 100 euro delle vecchie lire, e quanto duravano, porca miseria, ma duravano giorni, ma giorni 100.000 lire, no, è una cosa proprio strana, guarda, per carità. Comunque, se non sbaglio, c'è Leoncino, no? Sempre messo da parte, o sbaglio? Boh, se dovrebbe essere Leoncino, se c'è ancora, Giuseppe. Oggi! Ma è sparito, Comunque, ascolta, devo dare a te la mia, bene, va, abbastanza comprensibile, troppo compressa. Mi sta arrivando, va bene che bene. Qua la distanza mi arrivi bene, è proprio chiara, bella. Ristorta, no? Compressa. No, cos'è il 68? 68, E questo è il 48, sto modulando i seri, che modulazione mascola che c'ha. Sono belli come ho parlato, la verità, sembrano semplici, però la verità, con Vidra mi sono sempre trovato bene, adesso c'è anche la 44 in macchina, 18 anni, del mio primo baracchino, e funziona una meraviglia, la verità, molto bene. L'unica cosa che mi dispiace è che non c'erano le bande laterali, tutto lì. Se così ti vuole fare le bande laterali ci vuole 8001, se no qualche altro coso, già fitto. No, il 48 no, io ce l'ho così e infatti il camion non ce l'ho il 48 io. Ne ho avuto tanti di questi qua, la 48, però il camion no, c'ho l'8001. L'8001 che c'ha 10 bande addirittura, 10 bande quello lì. E così ho fatto un giro su internet e la verità non li ho trovato né nuovi da acquistare per dire né di seconda mano, perché un baccarato con la 4 vedo abbastanza completo e bellino, mi piace, poi ha sempre la tipica forma dei Midland, però ho fatto la ricerca e non li ho trovato. Vabbè, ci sentiamo e malandando, riuscendo a trovare, quanto potrebbe valere di seconda mano un apparato del genere? Te lo so dire, io allora quello che ho dato a contatto l'ho pagato 250 euro a seconda mano, però era nuovo, e se no costa sui 340 340 euro costa. E tu, bene o male, conosci un po' di gente, se ce l'ha qualcuno, quella adesso mi vendo questo, aggiungo qualcosa per avere un 8001, perché poi vai andando l'apparato anche omologato per le bande laterali, dunque almeno stai, diciamo, con buona tranquillità, no? Che è anche la cosa migliore. Se ti capita l'occasione, vendo questo 68 e mi prendo l'8001. Positivo. Ma non lo danno, lo vogliono caro, non lo danno per pochi soldi, capito? È un apparato completo, c'ha i mezzi canali, c'ha la sequenzimetro, non so se l'hai visto, c'ha l'FM, poi c'ha il più 10, te l'ho detto, che ce l'ha che la rialfa. E 10 bande c'è, capito? 10 bande, 10, va, mi prete, fa, non mi ricordo quante volte sopra e sotto, e comunque fa CDEH arriva alla L, pure ci ho visto. Anche concreto, mi piaceva per quello, poi ho fatto un giro su internet, però non... Allora, non sono riuscito a trovarlo proprio da nessuna parte, né nuovo né di seconda mano, proprio nulla. Ho fatto così una ricerca a vedere questi modelli, ho chiesto direttamente a Pusaro, dice, ha fatto una ricerca anche lui, ha chiesto a un rifornitore, ha detto che sono fuori produzione e dunque è un casotto beccarli. Io lo so, questo lo so anche io. Lo prendo intorno a 300 euro nuovo da negozio, dove a Cagliari da Pesaro c'è, l'ho comprato Tommaso anche da poco e me ne volevo comprare un altro io e poi non l'ho comprato, me ne volevo comprare un altro perché me lo fa a casa normale e me lo lascia intorno a 300 euro a me, c'è da Pesaro a Cagliari. È un prezzo abbastanza tranquillo, diciamo, non è che stanno approfittando come prezzo, se tu l'hai beccato 200 pass, 250 euro, lì viene 50 euro in più. Ma guarda, qua tanto ricevi, se tu vai da CBC, Serra Secca ce l'ha, ce l'aveva, se andate papà ce l'aveva, ma lo voleva più di 3,40, ce l'ha, se tu vai ce l'aveva lì, infatti gli ho fatto vedere il mio un giorno, gli ho fatto vedere. Ti ho fatto vedere il mio, l'8001, ti ho fatto vedere come era modificato, capito? Infatti io, la verità, c'è stato un mese fa, non c'erano più. Poi ho fatto in catalogo, nell'ultimo catalogo 2011 non c'è più. Nel 2010 c'era, poi, detto che chiamavano, ho chiamato io dopo 3-4 giorni e si è informato, dice che non ne hanno più da questo produttore, così mi hanno detto e... Dunque l'ho lasciato perdere, ecco la verità, avrei accimolato per averlo, perché mi piace la verità come apparato. E dunque niente da fare, ci accontentiamo di quello che ho. Poi ho portato il Galaxy a riparo, a fare la revisionata e dunque se tutto va bene, la prossima settimana è in funzione di nuovo. Che Galaxy è preso? C'è stato apparato? Io ho il Galaxy Saturn e l'ho portato da Giove. Lì a che fa anche riparazione di questi apparati, è bella una bella revisionata, non ce l'è presente come il Galaxy. Se te ne faccio vedere qualcuno ti spaventi tu, ma il brutto te faranno il Saturn Nero. Il Saturn Nero con la 5 stelle. Caparroia, sì, ce l'avevo io. Ce l'avevo e ce l'ha Stili Gonzale, che mi ha chiesto Antonio Grotte ieri, me l'ha detto se conosceva Stili Gonzale, ce l'ha Stili Gonzale quello lì. Beh, quello che non è che modula sa, se non ho mai sentito questo. Ah dai. Ah ecco. No, la verità mi piace quell'apparato, perché è già abbastanza completo, la verità, c'è un po' di tutto e poi è abbastanza grandetto, ti riempie un po' la stazione. Perché c'è la sua grandezza, è già in bellino come apparato. E l'ho portato lì a dare una bella revisionata. Poi se lo trovo bene la prossima settimana è di nuovo in funzione. Già funzionava, è la verità. Poi sono qualche piccole cazzatine da riparare e dunque l'ho portato là e ci metteva direttamente lui la mano addosso. Sì, dai, non ho capito a chi l'hai portato. Da Giove. Da Vittorio. Ah, e beh, Vittorio già... da Sarra, da Vittorio, avevo capito, dai, Vittorio, sai, l'aveva fatto quello mio, che c'era un problema che doveva già aveva, se l'ha fatto bene, allineato bene, quello di Ittiri, quel Giovanni di Ittiri, però non gli avevo portato il lavoro, però a Pinocchietto Moro, perché io l'ho dato a Pinocchietto Moro, poi Pinocchietto Moro l'aveva fatto vedere a questo Giovanni, non so che cos'è che c'è, gli aveva allineato bene, ma bene veramente ti dico, ma bene perché non andava tanto, in materia terra c'era qualche problema, non gliel'aveva fatto, ma bene veramente, e poi se l'è venduto a questo, come si chiama, a Fili Gonzale, a Enrico. Mi piace molto il modulatore Galaxy, è la verità, c'ha il suo, una modulatore tranquilla con il microfono originale, se ne mette l'amplificato guai, non c'è un bel apparato. Ho provato quello con tanti microfoni amplificati, in tante maniere ho provato su quello lì, capito? Poi non ne ho sentito uno io di Galaxy Saturn, ecco, fatto come questo qua, con la di questo qua. Non è bene, sì, già dà la sua importanza. Esce così come questo, la stessa radio, stesso eco, l'ha fatto rapido, gli ha messo la scheda a colto, gli ha modificato il modulatore, la radio e gira così come sta girando adesso questo baracchino in questo momento, la stessa cosa, così quest'eco. È bello, già è bello, ma la verità tu non c'è neanche un grate, è perfetto, no? Niente, perché qua devo fare solamente l'uscita dei finali, perché non usciva a 11 watt ma solamente a 5, e poi una lineata, dai, alla fine un controllo generale di tutta la situazione. No, a me è proprio una persona abbastanza brava su queste cose, quello che l'ho sentito per la prima volta e parla abbastanza specifico, dai, se si vede una persona che ne sa, dai, è già in buone mani. Beh, siamo andati a Vittorio è un radiotecnico, che hanno già un laboratorio per riparazione di televisore, dico, beh, è piacere suo, capo, no? No, per quello già mai tranquillo, capo, Vittorio è il lavoro suo, quello lì, è il lavoro suo, certamente Vittorio non ti fa un eco, non ti fa un coso, ma perché proprio non gliene frega nulla, però avvegliartelo come l'apparato è nato e cosa, sì, comunque mi pare che usciva 15 watt, non mi voglio sbagliare, Antone, quello che avevo io, ma mi pare che andava intorno ai 15 watt arrivava, non mi voglio sbagliare però, Ma dovrebbe uscire 11 watt in AM e 25 in bande laterali, così mi hanno detto. Positivo, no, non esisto, adesso io mi ricordo che addirittura io c'avevo la regolazione dei fatti, ne potevo abbassare e aumentare, ce l'avevo. E l'eco pure, anche l'eco potevo regolare io. E questo è lo stesso, sì, c'è scritto l'FR Power, ma aumenti e diminuisci l'uscita. E poi l'MCG indirettamente l'uscita al microfono con l'uscita anche dell'eco, sì, come vengo lì alla fine. Ce l'avevo preciso io, ce l'avevo, l'ho avuto un bel tempo e ma ho fatto una cosa giù in c'ho il coso, ho fatto l'incasso giusto, rimane c'è il portale d'anate, lo finivo, l'ho fatto l'incasso giusto a misura per metterlo dentro, io ce lo mettevo dentro, giusto. Ma già benino, poi alla fine diciamo che all'interno la stessa grandezza del Midland del 68, solo che c'ha, diciamo, il piccolo circuito per l'eco, poi il frequenzimetro, diciamo, inizia già a prendere un pochino di spazio, poi alla fine ci puoi mettere quello che vuoi dentro, perché ne hai di poco per sistemare le cose e farti una bella radio, e non c'è bellino come apparato, e puoi modificare il minimo di modi quello, ti manca solamente un po' di fantasia per dire e dai una bella sistemata, no, c'è tutto lo spazio che vuoi all'interno, ci puoi mettere anche un lineare all'interno tranquillo che funziona e ti recupera spazio, no, puoi fare quello che vuoi con quell'apparato. Già lo so, già lo conosco, è quello che sto modificando io, ho visto che l'ha modificato, però va bene, può rimanere normale, però l'ha modificato, pure la rompere diversamente pure, capito? Però se avevi un microfono a tavola, io già l'avevo abbinato, non mi ricordo che cosa, MP4, quello l'avevo abbinato io. No, quello l'avevo preso con la 87, però gli andava bene quel microfono lì, gli avevo abbinato con quel microfono e andava benissimo. Perché sono abbastanza, come diciamo, questi ZG, vero? Sono dei buoni microfili a tavolo. Però l'hanno fatto un lavoretto, me l'avevano fatto, dico la verità, mi avevano cambiato la capsula in ceramica, mi avevano messo quella piccolina, e una specie di punticello, gli avevano fatto, avevano aperto e ti aumentano il raggio di cosa, e dice la radio è più bella con questo, cambiandogli la come si chiama, la, come ti ho detto, la capsula di metodologia in ceramica piccolina, gli avevano cambiato quella lì, me l'avevano cambiata, me l'avevano fatta un giorno che tutta la casa, non è che lo sapevo, una piccola modifica che fanno tutti, e invece è molto meglio quel microfono lì, fatta questa modifica. Sì, ma poi alla fine questi non nascono già con la capsula in ceramica, qui c'è un catalogo per dire a casa e c'è scritto sono di tre tipi di modelli, alla fine hanno le stesse caratteristiche, solo che hanno qualche strumentino in più aggiuntivo, però sono tutti e tre questi modelli MP più 4, più 5, non mi ricordo che modello era, hanno già tutta la capsula in ceramica. Bene, ce l'ho, l'ho tolta quella sua, e cambia, è sempre ce l'ha, però è un'altra, l'hanno messa una sposa di quelli del telefonino, sai, non so, possiamo tutta da quei telefoni, dal telefono, quel telefono di casa, quelli che da lì l'hanno tolta forse, credo, capito, e mettendogli quella lì ti cambia tutto, e poi devi fare un ponticello, devi fare un ponte, e allora lui va, spinge veramente. Siamo all'interno del circuito questo ponte alla fine, e beh, lo si può fare già con la sua prendi il microfono ceramico originale, questo ponte si può fare ugualmente, sì. Che si può fare, ma cambiandogli questa capsula cambia completamente la modulazione, tutto giamba la radio, si cambia tutto, capito, cambiandole, io ne ho, c'avevo qualcuna di quelle capsule che me la vedeva venire assate qualcuno, non so, non ricordo chi, e più c'è la sua originale, c'era la sua originale da parte dentro il cassetto. No, infatti stavo intenzione di beccarmi qualcuno a vedere, riesco a trovare la Sassari, vedo un po' di acquistarmelo. Ho dato una cazzata io, ho dato a Claudio, mi ha fatto dare a cosa, come si chiama, a Mauro, gli ho dato una cazzata al microfono, proprio una cazzata gli ho dato. Vabbè, se riesci a parlare molto bene, poi marca italiana, vedo che funziona abbastanza bene, sì, da solo almeno nel mercato italiano due soldi, là riesci a avere una buona qualità alla fine. Sì, no, fa delle modifiche, va bene. Cosa? Gli aveva fatto la modifica Luca del Monte. Sì, sono cose che stanno queste di stazione fissa, capito? Natalino, tutti questi lo sa, pure Claudio lo sa fare. Io l'ho visto così, ma non ci sono stato attento, capito? Quando ha fatto la modifica di questo ponticello, non ci sono stato attento a cosa ha fatto, ma ha aggiunto un pezzo di filo, mi sono andato da una parte sull'altra all'altra, nel circuito che c'era dentro e basta. E più l'ha cambiato la capsula, e ha messo quella in ceramica. Il gioco è fatto, va bene, poi nel caso si riesca a beccarmelo, vedo un po' di chiedere informazioni alla fine, vai. Ma allora la verità è che del 62 io sono contento, ma riesco a beccare il tuo mini 1, sono ancora più contento, adesso vediamo un po' cosa ne esce fuori. Perché io sono andato a casa di Claudio, Dio mio santo, già ne ha poco di apparecchiature. Positivo, però non conviene mai dire niente, capito? Perché Claudio non conviene mai dire niente quando si va a una stazione e vedi quello che viene, meglio sempre, capito, non dire nulla, c'è troppa gente nascosta. E vabbè, no, alla fine c'è tutto in regola, per carità. No, è bene nel senso come tutta strutturata, tutta perfettamente ordinata, lucida, lo strato nuovo, è una bella storia. Ma sono capitati a me di quegli apparati che adopera lui, ce n'è qualcuno che gli ho dato io. Ho capito, più di uno gli ho dato a Claudio, ho capito, gli ho dato 140 della Chivo, perché lui non è che non ne aveva, perché ne ha, però ce l'avevo io e gliel'ho dato, no? Col microfono CMC60, gliel'avevo dato a lui, poi a poco gli ho dato un altro di questi radioamatori, capito, di quelle, ce l'ha lì in stazione, quelli tuzzi, non molto grandi, capite, ce l'ha lì, gliel'ho dato io stesso, capito, perché non me ne facevo niente io, dovevo avere patentini, cose varie, e anche il tipo di 140 gliel'ho dato, perché a un certo punto c'era ancora il periodo di televisione che della faccia da tutte le parti, e dove mandano contro una cosa, mi trovo una radio del genere, cazzo, mi ci mettono, e allora l'ho dato a Claudio, avevamo fatto cambio, non mi ricordo con che cosa, c'è un'altra cosa, avevamo fatto cambio, l'ho dato a lui. Comunque sì, ha una bellissima stazione, poi c'è anche su internet, beh, puoi spulciare tutta la sua stazione proprio professionale, è una bella storia la verità, una bella storia veramente. È la prima volta che vedo una stazione così completa, e guarda, contentissimo che va bene, tante altre idee, come sistemate, si impara sempre. C'è un'altra passassene che tu rimane scioccato. Rimane scioccato, capito? Se non altro che ne ha veramente da parecchi, ma ne ha che non riesci neanche a contarli, non ce la fai a contarli. È uno di quelli piccoli assili, tra virgolette piccoli, poi che ti prendono male, e poi ti senti talmente piccolo quando rientra a casa la vostra miseria, cos'è questa cosa che ho io? E dunque cerco un pochino di migliorare, no? Solamente per... Poi alla fine è più un fatto estetico, perché bene o male, tu ne ha parecchio, c'è il buono, io c'è le sue personalità, ha parecchio, però alla fine sono tutti buoni e poi tocca a te alla fine dargli quel pizzico in più, dai, per essere un pochettino buono come trasmissione e via, tocca a te alla fine, dai, tramite la tua immaginazione e la tua esperienza, per dire, non riesci un po' a migliorare la tua stazione, tutto lì. È positivo, positivo. Comunque c'è Walter Salvucci in Sardegna e penso neanche in Italia ce ne siano pochi come lui, credo in Italia e in Sardegna no, non ce n'è altro come lui, perché la stazione sua puoi entrare anche a vedere in computer se vuoi. C'è un coso enorme, è tutto vetrine, perché anche collezionista, tutte vetrine con tutte le radio, tutte messe di ogni qualità, di ogni marca, di ogni modello e niente, mi pare l'ultima anni fa che ha preso una degli ultimi che si è comprato, è una cosa enorme, circa 13.000 euro l'ha pagata, una cosa del genere mi ricordo. Ciao. Schermo piatto della fare una televisione manna da Nazi che vedi tutto dove stai modulando e non lo capita neanche io come farò, cioè tipo un nuovo televisore a schermo piatto davanti, capito? Da fatta questa radio, ce ne sono due di questi schermi piatti, grandi, enormi, e ci sono queste radioni micidiali, due ce ne sono micidiali. Lo so, dopo c'è la passione, il pavanzolo, guarda, puoi fare qualsiasi cosa alla fine. E poi questo che lavoro fa, porca miseria, per permettersi di avere questi bambotti di cose? Io non so se tu lo conosci a Walter Salvucci, a Diabolic, non lo so, però ne ha veramente, io ne ha, ce l'ho come amico, ci conosciamo una vita e... sono andato diverse volte, capito? Io tante radio le ho avute da lui, ma radio belle, ti dico, ma le ho avute da lui, capito? Quello del Saturneco che ci aveva dato lui e il Cobra grande che poi l'ho regalato, me l'ha dato lui, tante cose mi ha dato lui di queste radio, capito? E qualcuno me l'ha anche regalata, ma cose molto preziose, capito? E... Ne ha, perché ne ha, di questi Saturneco ne avevano infinità lui lì, e uno me l'ha dato e io gli ho dato un 48 di questi in cambio, per il furgone, capito, per il furgone, e c'era quello di Silico, quel 48 lì, che gli ho dato io, non mi ricordo il nome, lavora con lui stesso, lo sente la volta la mattina, parla con la sera con Falchetto, è di Silico questo qua, e lavora con Salvucci. Cosa hai capito che stai dicendo? Dunque fatto sta che sicuramente la sua collezione avrà anche lui il Galaxy, uno almeno ce l'avrà sicuramente. Cazzo, ti sto dicendo una infinità, me l'ha dato uno a me perché ne aveva non lo so qua, un'infinità, ne ha portato due o tre, anzi tre, quattro, un giorno ne ho portato, io c'era qua, c'era a terra con la buona anima di Giancarlo, ne avevo tre, ti puoi immaginare, uno di questi tre poi aveva dato a me, tre a mettere a controllarli, tanto caricavo il camion io e portavo lì a Terralba, ma lo caricavo proprio di baracchini, di amplificatori, di cose che non pensavo che neanche esistevano io. Ho preso male veramente, così è. Domenico questo, dove tu sei? Positivo, buonasera, la compagnia, capo! Dove, ma stai rientrando o andando? Stai rientrando? Dale, capo! No, anche adesso, ma si può viaggiare, tu puoi viaggiare, però c'è il posto, c'è. Ce l'ho a posto, capito, io ce l'ho a posto. Positivo. di Antonello da Ossi, se mi copi. Senti qualcuno per farti compagnia. Comunque domani sei a riposo, sì. Sì, sì, riprendiamo lunedì, ti manti alle 4. Già va bene, dai, l'importante è che si lavora. Purtroppo la vita è stata fatta di sacrifici, dai. Almeno viaggiando ti facciamo un po' di compagnia, così non ci pensi. Giustamente anche ognuno ha dai, un po' di libertà, dovrebbe averla, penso un po' come tutti. Comunque, già è vero, senza lavoro si sta male, hai ragione. Comunque, là, ti auguro buon lavoro, vai piano e stai attento. Impressionati, cioè non c'è Nessuno, sono solamente le persone del posto, giustamente Alghero, sta lavorando Alghero, dice niente, proprio di niente, dice, al massimo dice si fanno 10 euro al giorno, prima si facevano anche quelle 1000, 1500 euro, sto parlando l'anno scorso e di 2 anni fa per dire, quest'anno dice proprio una cosa impressionante. Sì. Ma faccio una mano per